Cruciani. Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti sei lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ti auguro veramente che tu ti possa convertire, perché mi fai tanta pena per la rabbia, per quest'astio. Avete visto oggi che cosa è successo davanti al tribunale di Milano? Una cosa ridicola, una cosa patetica, cioè le file interminabili di persone per entrare. Il giorno dopo la strage, perché bisogna chiamarla così, l'uccisione di tre persone, questo pazzo, eccetera, eccetera, e improvvisamente si scopre che c'è un problema di sicurezza, che forse c'è un problema di sicurezza, perché in realtà poi non è successo nulla per 50 anni, no? E allora i controlli con le file delle persone, quello meno che dicevamo male, ieri. Ma no, ma meno male niente. Ma, meno noi, male che ma se oggi non ci fosse stato un poliziotto, se oggi davanti al Tribunale di Milano non ci fosse stato nessuno, non sarebbe successo niente. Beh, poi c'è anche nulla. L'esquemulazione, meno ma male, che, meglio tardi che mai. Ma quando mai? I controlli disincentivano è un po'. È tutto ridicolo. Invece Mediaset ha intervistato un amico dell'assassino di Giardiello. Questo amico, che si chiama Ermenegildo Gabrielli, dice che sostanzialmente sapeva tutto prima, non ha detto nulla, non ha denunciato perché gli sembrava che poi non si concretizzasse, che non si arrivasse, insomma, a queste cose qua. Comunque, se gli ha pure prestato 800 euro per comprarsi una pistola. Ha chiesto un prestito, io gli ho dato, gli ho prestato 800 euro. E mi ha confidato che era per una pistola. E poi mi ha confidato che era per comprare una pistola, sì. Gli avevo chiesto come fa a entrare in tribunale con una pistola e lui mi diceva che entrava dove entravano gli avvocati, siccome che vestiva bene con la cravatta, con la borsa, con dentro i suoi documenti, quando entrava faceva finta di mostrare un documento e passava, lo facevano passare. Ancora, mica è finita. Era un mio amico e mi diceva che suo nipote aveva cercato di truffarlo, poi non so se l'aveva, e veniva qua a trovarmi quasi ogni giorno e mi diceva che lo voleva uccidere. Io dico, no, ma per carità, poi in questi casi parlare dall'esterno magari è sbagliato, ma siamo qui anche pagati per questo, no? Ma amico Ermenegildo Gabrielli, ma non ti è venuto in mente dopo che gli hai dato 800 euro per comprarsi una pistola? E già uno dice, no, qualche domanda te la vuoi fare? Beh, sì. O non te la vuoi fare? Ha detto, io passo per il barco tranquillamente dal barco per gli avvocati, eccetera. Seconda cosa. Terzo, dice, voglio ammazzare il nipote. Ma ti può venire un dubbio di... No, certo. Non ha comprato una penna. No, ma ti vuoi presentare... Ti vuoi presentare alla vicina stazione dei carabinieri, che ce ne sono tanti in Italia, per dire, scusate, forse c'è un signore che ha dei problemi e potrebbe creare dei problemi agli altri. Gli ho dato 800 euro per comprarci una pistola, che già uno dice, no, e vabbè. Secondo, insomma, ragazzi, dai, su. Giustamente sto Gabrielli, sì, i carabinieri oggi pomeriggio l'hanno sentito. Te credo. Oh, quelli che mi fanno impazzire poi in questa vicenda, che è ancora tutta da decifrare, perché adesso questo ha detto che odia i giudici, sono stato rovinato dal tribunale. Vabbè, chiunque vicino al fallimento se la prende con chi lo sta per decretare fallito, no? Vabbè, ma comunque poi vedremo, non voglio dire niente, non voglio dire niente, perché se dico che questo qua è un pazzo che si è rovinato da solo, poi magari si scopre che c'è stato qualche cosa che l'ha, no? Qualcuno che l'ha spinto verso il... Certo, certo. Non voglio dire niente, non voglio dire nulla. La cosa che mi fa andare ai matti è quelli che dicono: beh, le critiche ai giudici, beh, hanno creato un clima difficile. Un clima difficile. Ma scusa, ma questo ha ammazzato non solo il giudice, tra l'altro l'ha ammazzato per ultimo il giudice, ha ammazzato l'avvocato, un'altra persona che era un coimputato. Sembra una brava persona che si è trovata in un impiccio perché ha fatto una società insieme a questo, ma insomma, questi qua invece no. Ma quale clima? Non c'entra proprio niente. Ma non c'entra nulla il clima contro i giudici. Adesso come lui... del resto non c'entrava la statuetta che venne scagliata contro Berlusconi, il famoso clima di ostilità nei confronti di Berlusconi. Vabbè, ho capito, quello, cioè... però ha colpito Berlusconi. Che c'entra? No, momento. Quello ha colpito Berlusconi, non è che ha colpito un altro. Che non c'entra nulla il clima. Sì, certo, anche quello ha colpito il tribunale, no? Vabbè, ho capito. Dice, vabbè. No, ma per dire, non c'entra il clima che si crea. C'entra che quello che colpì Berlusconi era un pazzo scatenato da rinchiudere in un ospedale psichiatrico. Sentiamo, e questo qui è un killer. Sentiamo pure Di Pietro, Gli ultimi 20 anni sono state date delle martellate di discredito contro la magistratura. Bah. In questi ultimi 20-30 anni, ogni giorno vi è stato un martellamento delle menti dell'opinione pubblica di discredito nei confronti della magistratura. Quasi che tutto ciò che avviene... Oh, c'è pure il capo dei magistrati, là, dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, che dice: i giudici pagano l'isolamento. Scusa, con tutto il rispetto, caro Sabelli, non c'entra una mazza. Non c'entra nulla, niente. Magari sì, le critiche eccessive ai giudici, ma non è che questo qua, cioè, è stato, si è armato perché odia. Sì, dice di odiare i giudici, ma perché lo stanno magari portando al fallimento, ma. Fatti tragici che sono accaduti abbiano in sé anche, proprio nella loro tragicità, un valore drammaticamente simbolico anche della solitudine in cui tante volte è lasciata la giustizia. Allora, mi sorprende molto anche l'amico Liguori, l'amico Paolo Liguori, non mi ricordo in quale trasmissione, non mi ricordo in quale trasmissione, amico Paolo Liguori, il quale dice: bisogna capire i motivi per cui Giardiello spara. Per carità, certo che bisogna capire i motivi. Non bisogna avere pregiudizi su Giardiello. Ma chi ha pregiudizi su Giardiello? Ragazzi, ha ammazzato 3 persone in serie, uno dopo l'altro, come un killer. Ma certo che ho pregiudizi. Voglio valutare il caso Stacchio per quello che è, e cioè ha salvato altre persone, ecco. Però non voglio avere pregiudizi perché la vittima era uno sbandato, e in questo caso, Giardiello, non voglio avere neppure i pregiudizi opposti, ve lo dico assumendomi la responsabilità, io mi vergogno. Però se si perde completamente la memoria e non si ricorda che la zona dei fallimenti in Italia nei tribunali è una zona ancora largamente oscura. Ma io non lo capisco, Liguori, francamente non lo capisco. Tra l'altro, no, cioè lui dice, no, ma è una zona oscura quella dei fallimenti, d'accordo, ma c'è un sacco di gente che fallisce, non è che prende la pistola e ammazza 3 persone, dai, su, Liguori, dai. Poi dice anche una cosa contro l'avvocato che lo ha irritato, quello ammazzato. Dai, su, hai esagerato, Paolino, dai. Mi sembra strana la figura di un avvocato che va in tribunale a testimoniare contro il proprio cliente. A meno che non sia minacciato egli stesso, un avvocato si astiene, o quantomeno si appella al segreto professionale, perché altrimenti il cliente si irrita. Ma quale cliente non si irriterebbe di un avvocato che poi testimonia contro... E però così sembra quasi che giustifichiamo, si irrita, no, però... lo chiedo agli avvocati... Vabbè, Liguori è impazzito, eh. Cioè, Liguori è impazzito. Quando c'è di fronte un giudice, praticamente non ci vede più. Si irrita, ma non lo sì, d'accordo, ma non lo sa nemmeno. Ma non lo sa nemmeno. Pare che quello, tra l'altro, quello ammazzato, l'avvocato, volesse alla fine dire davanti ai giudici nell'aula di tribunale che non se la sentiva di testimoniare, non in questi termini, ovviamente, che non avrebbe testimoniato contro Giardiello, contro l'assassino. Ma ragazzi, ma Paolo! Paolo! So you think you'll take another piece of me to satisfy your intellectual need? Do you want? Popolo della radio, eccoci qui, la Zanzara. Dovete sapere che in rete gira di tutto, ci sono anche dei mezzi matti come quelli di Alba Dorata Italia, caro Parenzo. Alba Dorata, in Grecia è più o meno una cosa seria, molto estremisti. Beh, hanno arrestato qualche. Però è una cosa seria, partito. In Italia è una farsa come. Beh, al solito, seria. Però questi signori di Alba Dorata Italia, credo che il leader fosse, adesso ci stiamo procurando il numero di telefono, questo Gardossi, no? Come si chiama? Alessandro Gardossi, i quali hanno aperto un conto corrente per aiutare il pazzo, per aiutare il killer. Questi si chiama Giardiello, lo voglio sempre ricordare. Giardiello è il killer, poi viene tutto il resto. Intanto uno che ha ammazzato tre persone, poi vengono tutte le altre considerazioni. Insomma, c'è qualcuno che ha aperto un conto corrente per aiutarlo, perché dicono che lo Stato lo ha fatto impazzire. Ma lo vogliamo chiamare sto Gardossi, il pazzo che ha aperto il conto corrente? No, vedrai, questi rispondono matto, sempre matto. Hanno aperto un conto corrente per mandare dei soldi a favore dell'assassino, del killer. Pronto? Sì, Gardossi? Sì. Sono Cruciani, come stai? Ciao Cruciani, ciao. Io voglio capire una cosa, perché avete aperto questo conto corrente a favore di questo Giardiello che è un assassino? Ammazzato perché è una provocazione. Ma che vuol dire una provocazione? È una stupidaggine. Ha ammazzato tre persone questo qua. Sì, è lo Stato che fa suicidare centinaia di persone ogni anno, non è un assassino? Ma è ridicolo, ma che c'entra? A parte che lo Stato che fa suicidare è una teoria. Che... Quando tu ammazzi la gente con le tasse, gli mandi Equitalia, gli porti via i bambini, tutta una serie di cose, cos'è questo? Ma questo è un killer. Voi avete aperto un conto corrente per salvare un killer. Non salvare. Aiutare, film. Aiutare. Sì. Ma è una cosa folle. Ma siete un branco di poveri pazzi. Sì, siamo. Un branco, sarei da solo. Siamo sociopatici, va bene? Esatto. Siete? Sì. Esatto. Sociopatici. Allora io dico una cosa, Gardossi, tu sei di Alba Dorata, ma non è quello il punto. Ma non esiste niente. Hai scritto: le Iene alias gli avvocati scappavano a gambe levate. Qualcuno l'ha scritto, magari tu l'hai scritto, no? Tribunale di Milano. Beh, Alba Dorata, l'account ufficiale. Tribunale di Milano, ammazzato giudice avvocato. Quando esasperi le persone devi aspettarti di tutto. Bisogna far pagare il biglietto per vedere espressioni avvocati col cioccolatino tra le mutande mentre sentivano gli spari al Tribunale di Milano. Cioè, tu hai sostanzialmente goduto per quello che è successo. No. Come no? Da quello che leggo, fantastico sentire testimonianze degli avvocati cagati addosso dagli spari. Nessuno gode. Ma scusa, ma questi, beh, sì, questi tweet, ma che cosa sono? Tutti godono quando la gente va in disgrazia. Perché quando a te portano via tutto, i bambini, la famiglia, la casa, tutto quello che hai, sono tutti lì che ridono e che incassano. Scusa, prendi pistola e colpisci, punto. Fai provare loro quello che provi. Cioè, ma perché non la devi dire tutta fino in fondo? Ha fatto bene, dillo. No, non te lo dirò mai. Ma non te lo dirà, è come se l'avessi detto. Non te lo dirò mai, no, perché, ripeto, è una metafora. Sì, vabbè, ma non mi sembra molto una metafora dei tweet che hai scritto. Perché è un'idiozia. Perché dici che lo Stato è il mandante, scusami? Perché lo Stato sta uccidendo i propri cittadini. E ha ucciso pure. Dunque, sostanzialmente tu dici che questo signore, come si chiama, Giardiello, lo Stato lo ha fatto impazzire, giusto? È lo Stato ha contribuito, ha contribuito. Dunque, tu scrivi. Sì, ma nella metafora, cioè non è che adesso nessuno sa il caso particolare di Giardiello. Ma allora perché scrivi? Ma perché non mi fate queste interviste quando ci sono 150 persone che si ammazzano all'anno? Ma guarda, il nulla assoluto sei. Il suicidio delle persone non è che si può giudicare sulla base semplicemente della disperazione perché ti va male l'azienda, perché non hai soldi per pagare Equitalia. Cioè, no, tu hai aperto un conto corrente, una sottoscrizione a favore di un assassino di tre persone, il quale, per motivi ancora tutti da verificare, ha trucidato tre persone. A te non te ne frega niente dei parenti di queste tre persone trucidate? No, ma assolutamente. Allora, se vuoi portarlo come un caso di cronaca nera... No, ma sei uno sciacallo, sei uno sciacallo. Vabbè, sono uno sciacallo, ma cioè, non sono uno sciacallo. Cioè, questo... I sciacalli sono quelli che portano sta gente a fare questi atti, lo hai capito o no? Ma che ne sai di chi l'ha portato? Magari ha gestito male è le sue matto, aziende. È un killer, un matto. Magari basta. È fallito per me per colpa sua. Ma sai, ma, cioè, non riesci a capire che questo gesto di questa persona può essere una cosa drammatica, perché... Ma è drammatico, non c'è, perché sia drammatico non c'è dubbio. Sono morte tre persone. Ecco, questo vogliamo dire. No, voi volete dire che c'è un mandante dietro che è lo Stato. No, questo lo dici tu. L'hai scritto tu, il mandante è lo Stato, dai, forza. Lo ma Stato... il mandante indiretto, è ovvio. Ma quale mandante indiretto? Sì. Quando uno Stato, ma servo dell'usura internazionale... L'usura ma che ne sai che è stato l'usura? Ma che ne sai che è stata l'usura internazionale? Ma non lo sai, non sappiamo i dettagli bene. Magari questo qua è fallito perché, come sembra, amministrava male le sue aziende, le sue società. Sì, ma perché ha litigato con i soci, che ne sai? Tu hai goduto perché hai visto avvocati e... godi a farmi domande che non hanno senso. Ma no, ma scusa, sei tu che hai scritto cose che non hanno senso, abbi pazienza. Ti devi vergognare per quello che hai scritto, vergognati per quello che hai scritto. Andresti anche indagato probabilmente. Ma no, eh? Ma che indagato? Sì, un reato, sì, ma io sono già sotto processo per dirigendo... meno male. Bene. Contro capo dello Stato, non preoccupare. Bene, bene, bene. Dai, su, Tribunale di Milano, ammazzato giudice avvocato, quando esasperi le persone devi aspettarti di tutto, dai, hai goduto, vuoi stragi continue tu, vuoi stragi, vuoi il caos, tu vorresti il caos, questa è la realtà, o no? No, io voglio uno Stato ordinato che rispetta i propri cittadini. Vabbè. E che non li porta ad essere gli uni contro gli altri. Sì, qui non c'è, no. Non c'è gli uni contro gli altri, qui c'è uno che ha ammazzato tre persone perché probabilmente gli ha dato di volta il cervello per i suoi problemi economici, capito? Anche, e dice di odiare lo Stato, i magistrati e il tribunale che secondo lui l'ha messo in mezzo, cosa tutta da verificare, e tu hai cominciato a sparare cazzate su Twitter. Dai, ciao amico mio. La tua idea. Ciao Alba Dorata, ciao. I said the Joker is a wanted man. It makes a way all across the land. It seems sifting through the sand. So I'll tell you all the story about the Joker and the thief in the night. E c'è un sacco di gente che dice che in fondo lo Stato ha spinto Giardiello ad ammazzare. Noi raccogliamo anche questo. Perché c'è qualcuno che dice: beh, avete fatto parlare gente che ha accusato lo Stato, che ha appoggiato il killer del Tribunale di Milano. E allora? E qual è il problema? Non capisco. Non dobbiamo far parlare le persone? Oh, me la voglio prendere anche con il Papa oggi. Con il signor Papa. Sì, amico mio. È intoccabile. Sì, il vicario di Cristo. L'ipocrisia, terra, so. L'ipocrisia del Vaticano sulla questione dei gay è incredibile. Incredibile. Allora, per l'ambasciatore. Abbiamo capito. Certo, noi abbiamo conosciuto questo Papa per una frase a favore del mondo gay, che è questa: se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Una frase meravigliosa, no? Abbiamo detto, cioè Adinolfi non era molto contento di questa frase, gli ultracattolici nemmeno, però è una frase che a me è piaciuta, anche a te Parenzo è piaciuta questa frase, no? Molto, chi molto, sono molto. Io per giudicare? Dopodiché veniamo a sapere in questi giorni che il Vaticano, cioè il Papa, si oppone al fatto che la Francia nomini un ambasciatore presso la Santa Sede, che è un grande conoscitore di cose ecclesiastiche, un grande conoscitore del diritto del Vaticano, ma che è anche omosessuale. Capisci? Si oppone, dice di no alla nomina di questo signore. Sì, è un po' un'ipocrisia, però... Dai, su! Le regole del Vaticano sono quelle, capito? Ma quale regole del Vaticano? Ma chi l'ha detto? Perché non può essere nominato un ambasciatore no, frocio. Perché, per me un ambasciatore frocio per al Vaticano. Anche un trans. Sarebbe però... bellissimo, un ambasciatore sì, però, che capisci al Vaticano. Che la diplomazia... Ma ho capito, allora non dire che i gay vanno bene, e come ha detto il Papa. Dai, su! Questa è la contraddizione, infatti. L'obbligo, di gay pride obbligatorio per tutti. Già vedo Parenzo sul camion, che sculetta. The sky is red, I don't understand. sera, a un certo punto, durante la trasmissione Virus condotta da Nicola Porro, c'erano delle interviste ai rom. Va molto di moda adesso intervistare i rom nei campi, i rom in giro, i rom pizzicati per strada, eccetera eccetera. Sì, anche questi qua non si sottraggono, cioè, sì, a differenza, ma, insomma, dei criminali dipende. Vabbè, adesso non fare queste distinzioni, non è che c'entra, se, non se si tu sottraggono. Vai da un criminale, no, gli dici, sì, scusi, lei è un criminale? Oh, vabbè, questo qua domanda, sì, in generale questi qui, essendo dei poveracci criminali, piccoli criminali, non è che si sottraggono, sono anche talmente, vabbè, non è che sia un merito, non è che sia un merito, no, non ma sottrarsi. Sono talmente pericolosi che si fanno interviste e dice, lei ruba? Ah, ruba, certo che ruba. Vabbè, ho capito, criminali. Ma a me non cambia nulla. Ma sapete, sono talmente criminali. In realtà no, che... perché te lo dico io perché. Perché c'è essendoci una grandissima impunità in Italia, essendoci una grandissima impunità, questi qua se ne fottono di dire. Ma è colpa dei rom, i rom. No, ma non lo so, ma certo, i rom rubano. Sì, appunto, rubare, dillo. Non ruba, no. Beh, sì, la maggior parte. Rom fa rom. Molti rom rubano, dai, forza. Alcuni. Ma diciamola chiaramente, la realtà. Ma la realtà è questa. La realtà è questa. Guarda, lo dice anche in maniera un po' più edulcorata un uomo di sinistra, di una famiglia di sinistra, come l'ex candidato e probabilmente prossimo candidato a sindaco di Roma, Alfio Marchini. L'altra sera l'ho sentito dire, non mi ricordo dove, a Linea Notte, su Rai 3. Lui sa che su Roma, no, questo è un tema molto spinoso. Che cosa dice Marchini? Dice, ragazzi, è inutile raccontarcela, l'integrazione è fallita perché non si vogliono integrare. Questo è il punto fondamentale. Vabbè, comunque, lasciamo perdere. Ho sentito dei rom dire, noi in mezzo ai marocchini non ci vogliamo stare. Cioè non vogliono vivere con quelli che loro chiamano marocchini, no? Quelli che loro chiamano marocchini perché hanno le malattie. Senti. Una casa nostra fissa dove siamo tutti zingari e loro ci vogliono portare mezzo i marocchini, mezzo i stranieri, non li conosciamo, non lo sappiamo cosa è, se sono malati, se non sono malati. Cioè vogliono stare tra di loro, vogliono stare tra di loro, non vogliono andare in mezzo ai marocchini. Dai, su, ma ragazzi, ma ci sono delle cose che si sentono, per carità, non è che una persona è significativa, però sì, non sarà una statistica, però è così. No, ma sono come i leghisti, uguale. Ma che dici? Cioè, i leghisti ti dicono no, non vogliamo stare con i marocchini, vogliono stare tutti tra padani, no, e i rom vogliono stare tra i rom. Tu sei veramente al delirio. Sono, cioè, tu uguali pensi ai leghisti. Ma non dire stronzate, io potrei dire sono uguali agli ebrei. Scusami, allora. Sono uguali. Beh, dai, vogliono stare tra di loro, certo, cioè vogliono fare un gruppo, ma non è vero. Ma che facciamo, Ghetti? Cioè, che facciamo? I leghisti non vogliono stare tra leghisti, ma o no? Vogliono vero, avere no, un territorio, cioè, ma non che è vero, ma non padano, è vero. Sei tu che pensi, che tuo figlio non si possa sposare con un leghista? Fare... Sei tu che pensi che tuo figlio non si possa sposare in futuro con un leghista? Mi auguro di no. Ma perché di no? Perché no? Ma scusa, mettiamo adesso, parliamo di della vita privata di Salvini, no? Leader della Lega, che sta insieme alla signora Isoardi. La signora Isoardi, non mi risulta leghista, la signora Isoardi, sì, insomma, sì, stanno insieme, si baciano. Ha trovato l'amore. Ma lasciamo, ho capito, non mi risulta leghista, cioè non è che tutti... Io non potrei mai, parlo di me, io, di miei figli. Tu non potresti stare mai con... Io non potrei mai stare con una persona con cui non condivido tutto, questo sicuro. E quindi che ha una visione della vita... Tu sei veramente... No, ma che ha una visione della vita diversa dalla mia, mi risulterebbe anche nelle abitudini, nelle cose, no? Mi risulterebbe strano, però magari questo è il mio modo di vivere. Comunque, questi qua vogliono rimanere nei campi. Senti quest'altra che dice... No, noi ci vogliamo stare qui nei campi, solo che i campi ormai non li vogliono più in Italia, sapete meglio di noi, cioè quello che dicono i politici. Come i leghisti, uguale. Rubare, badani, non dire stronzate, uguale. Rubare è bello, rubare è bello. I leghisti dicono Padania Mattino libera. 5, rubare è bello, non dire stronzate. Uguale. Lo capisci che è una cosa, a parte che è contraria alla legge, ma è una cosa proprio... livello di coscienza brutta che non si fa. No, non è brutta, è bello. Non abbiamo soldi, non ce l'abbiamo, da dove ci vengono? Allora andiamo a rubare e stiamo a posto. Genitori provvedono, anche le altre ragazze della vostra età non hanno i soldi. Hanno 5-10 euro, quello è poco, per noi vogliamo 500, 300, 900, così ci piace la vita per noi due. Però non comprate cose di marca. Sì, Gucci, eccoli. Quelle sono vere, originali. Sì, originali, guarda che sono originali, non sono falsi. Comprate da negozio? Sì. E se adesso fossi io a rubare a voi? dai, va bene, fai bene. Faccio bene. Allora sei il nostro gruppo. Vabbè, tra l'altro molti criticano queste interviste ai bambini, eh. Però, molti criticano queste interviste ai bambini. Però questi sì, parlano romano. Perché? Non ho capito, non si possono intervistare bambini rom coperti? Beh, qual è il problema? Ma coperti, sì, vabbè, discutibile. Ho capito, però capisco discutibile la polemica. Cosa è discutibile? Capisco la polemica. Ma si sta parlando di questioni di rom, integrazione e quant'altro, non si possono intervistare dei bambini coperti. La carta rom di Treviso vale per chiunque, no? Vabbè, stai dicendo che quelli di Mattino 5 commettono un reato. Ma no, ho detto che non ho detto questo. Se vuoi lo dico, ma non ho detto questo. Ho detto che è una questione discutibile che riguarda un po' tutti i bambini. Certo, se li copri, li bleri, come si dice tecnicamente, se può fa. Però voglio dire, questi cosa dimostra questa roba? Che il degrado ci può essere dappertutto. Parlavano romano, se tu non avessi detto che sono rom, lascia star che l'hai detto. Beh, insomma, e che si sentiva. Parlavano romano. Si sentiva la classica cavata rom. È disagio sociale, è criminalità comune, come la vuoi chiamare? Non è rom, è criminalità comune. Vai a Gomorra, lì come si chiama, a Scampia, e troverai dei criminalotti, ragazzotti, piccolini, che ti dicono sì, rubiamo la metropolitana. È uguale. Non è che è rom. And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. In un'aula gremita il tribunale ricorda le vittime del killer. Chi ha cercato vendetta ha finito per uccidere l'idea stessa di giustizia, dicono i magistrati. Mio figlio colpito perché non è stato una marionetta nelle mani del suo assassino, così la madre di Lorenzo Claris Appiani, l'avvocato morto nella strage. Domani l'interrogatorio in carcere a Monza per Claudio Ciardiello, le sue parole durante l'arresto, il tribunale mi ha rovinato, è l'origine di tutti i miei mali. Tra poco il Consiglio dei Ministri sul documento di economia e finanza spunta un tesoretto da 1,5 miliardi da destinare al welfare, forse con un decreto. Forza Italia si spacca in Puglia, Schittulli si allea con Fitto, ha accettato le mie condizioni, replica il segretario Vitali, lui non è più il nostro candidato. In pieno tormentone politico familiare con l'espulsione del padre dal fronte nazionale, per Marine Le Pen arriva un'inchiesta per finanziamenti illeciti al partito. Allora, 800240024 per chiamarci, Leonardo Lecce, vai Leonardo. Buonasera. Dimmi. Leonardo, togli viva voce e altre cose ancora, vai Leonardo. Ok, tolto viva voce, volevo intervenire in merito a quello che è successo. A quello che è successo dove? Francesco, provincia di Pescara, dai. Pronto? Dimmi. Eccomi. Vai, dimmi. Buonasera. Sì, dimmi. Prima cosa, complimenti. Sì, Francesco, però abbia pazienza, io non posso prendere le prime telefonate che arrivano, uno gli cade la linea, non si sente, e lei complimenti, perché io vi ammazzo tutti. Francesco, dai. Perché dare il pazzo a un uomo lucido che ha saputo difendersi anche con violenza, ma ha saputo difendersi. Non ho capito, Francesco. Torniamo indietro. Soggetto, eccetera, eccetera. Vai. Soggetto è Claudio Giardiello. Sì. Che ha saputo difendersi in modo violento, violentissimo. Ha saputo difendersi in modo violento, violentissimo. Ha fatto quello che molti di noi pensano, ma non hanno il coraggio di fare. Allora, se lei pensa di voler entrare in un tribunale, se ha problemi economici, ammazzare il giudice. No, non ha problemi economici. Ha problemi economici? Di evasione fiscale. Come? Era un problema di evasione fiscale. Non di evasione, no, di bancarotta. Cioè, ha gestito male le sue aziende, evidentemente. O comunque. Io ho letto. L'ha letto male, e dice stupidaggine. 3.000 euro di utili a fronte di mezzo milione di fatturato. Evasione fiscale. Però scusami Francesco, adesso al di là dell'evasione fiscale, al di là di quello che è nel merito, non sembra evasione fiscale, c'è un processo per bancarotta, non per evasione fiscale, poi sicuramente avrà problemi anche con il fisco, non lo so. Comunque no, andiamo all'inizio. Secondo me era un'associazione a delinquere. Ma chi? Tutti i soci. Sì, ma che ne sai tu? Hai letto le carte? Secondo te cosa? Cioè, cosa secondo te? Degli immobiliari che denunciano 3.000 euro. Ma io non lo so questo, io non lo so, magari sarà stato fottuto dai soci, ma mettiamo anche che sia stato fottuto dai soci, allora? Ha avuto il coraggio di essere ecco. Primordiale, crudele. Ha avuto il coraggio, immorale. Ha avuto il coraggio, bellissimo. Allora, Francesco, spiegami questa frase. Bruttissimo. Ma che vuol dire? Hai iniziato dicendo ha avuto il coraggio. Ma il coraggio mica è bello. Il coraggio è neutro. Ha avuto il coraggio, è neutro. Neutro. Uno che dice ha avuto il coraggio è neutro. Neutro mica tanto, però. certo, nessuno faccia l'ammira. Chiarezza con se stesso, nessuno l'ammira, ma che... insomma si chiarisca un po' le idee prima, o no? Ma scusi, voi avete la sindrome di Ruth. La cioè, sindrome chi non di... non come voi di Ruth, ha letto Martin Eden? Sì, sì, allora la sindrome... la sindrome di Ruth, chi non ragiona come voi non ragiona. Ma io non ho detto, ma questo, non quello che lei ha fatto non è un ragionamento, perché tu hai detto... Ma lei no, perché lei ragiona facendo da me. Francesco, hai detto una cosa, ha avuto il coraggio di fare, di ammazzare delle persone, ha avuto un coraggio. Qual è sto coraggio? Il coraggio di togliere, di scatenare la civiltà che si fa rispettare nonostante dentro ci abbiamo l'istinto primordiale di aggredirci. Ah, questo, credo che siamo alla follia. Si faccia curare. Leonardo da Lecce. Eccomi qua. Dimmi. Allora, ovviamente tutti quanti si allineano a quello che è il potere, perché nessuno ha il coraggio di dire come stanno le cose. Però se voi provate ad intervistare tutti gli imprenditori, non ce ne sarà uno che non è d'accordo con quello che è successo. Ma veramente io ne ho sentiti tanti. È normale che un uomo che muore, è normale che dispiace ed è un grande peccato. No, veramente sono però, tre, eh. Cioè, comunque. Vabbè, sono tre, possono essere anche dieci, non è questo il discorso. Non stiamo parlando di questa. E invece qual è il discorso? Merito. Il discorso è che gli imprenditori dalla mattina alla sera vengono vessati, torturati e martoriati. È normale che una persona che arriva al culmine della sua sopportazione se la prende con chi si trova davanti. Però scusi, Leonardo, io devo dirti una cosa. Questa qua non è una vicenda come tante altre in cui c'è qualcuno che ha dei problemi col fisco, le cartelle esattoriali e dunque il ricarico sulle cartelle esattoriali, tutte le cose che sappiamo, che abbiamo sentito, l'euro, tutte queste cose qua, la difficoltà di fare imprese in Italia, non è una vicenda del genere. Questo qua ha creato delle società che sono fallite per motivi X. Parlando, Cruciani, non stiamo parlando nel merito di questa. Ma come no? Ma per forza, di che dobbiamo parlare allora? Non si può però non ammettere che in Italia c'è un abuso e che l'Italia sia un paese delle lobby, che i giudici siano intoccabili, eccetera, eccetera. E dunque a lei fa. Ma cosa volete dire? È normale che sia più facile andare contro chi ha fatto questa strage che non andare a favore. Non avreste. Ma scusami, pazienza. Se uno. Ma la stoffa che cosa significa? Ma perché tu sei contento? Intervistate gli imprenditori e trovatemene uno d'accordo. Allora, benissimo. Trovatemene uno d'accordo con i magistrati. Ma che c'entra in generale? Magari saranno incazzati per come funziona la giustizia. Saranno incazzati per come funziona la giustizia in Italia. È impossibile fare impresa. È impossibile la giustizia, la burocrazia. Benissimo, sono d'accordo. Cosa c'entra questo? Sono d'accordo. Allora oggi finalmente si è acceso un faro. Sono qualche cosa che si è acceso un faro. Finalmente. Purtroppo sono dovuto. Ma lei è un criminale potenziale. Ma qual è il faro che si è acceso? Il faro che si è acceso è che esiste una categoria di persone che è l'Italia produttiva, che è quella, il motore. Ah, da una parte ci sono quelli che producono e dall'altra ci sono i parassiti, cioè gli avvocati. Ti voglio fare presente che è morto. Un imprenditore, un altro imprenditore. Ti voglio fare presente che ne muoiono 150 all'anno. Ma non dire stronzate! È morto un imprenditore, un avvocato e un giudice. Tu dici. Vabbè. Cruciani, dobbiamo ridere, bisogna dire puttanate, perché abbiamo bisogno di ridere. All over the world tonight. Clocks are spinning around. Allora, ridiamo un po' con la guerra in corso, Parenzo, la guerra termonucleare in corso all'interno di Forza Italia. Tra la rotta matrice azzurra, durerà poco secondo me, Silvia Sardone e per esempio alcuni big azzurri, come sappiamo, Gasparri, Matteoli, la Polverini che sembra sia incazzatissima, mi dicono mie fonti interne a Forza Italia, che era furibonda nei confronti di questa Sardone perché l'ha definita una zavorra, ma soprattutto Antonio Razzi. Perché la Sardone dice che si vergogna, la Sardone, per chi non la conoscesse, quella ragazza bionda col caschetto anche abbastanza carina, della Brianza, consigliere di zona, ha preso pochi voti, siccome è spigliata e molto carina, va in televisione e dice che in sostanza questo partito è in preda a una guerra tra bande, che bisogna rinnovare la classe dirigente, da affendenti di qui, colpi dall'altra parte, eccetera eccetera. Se la prende anche con l'amico Razzi, dicendo che insomma quando lo vede in televisione a cantare, quando lo vede dire le sue cose, si vergogna. Ma a parte che abbiamo anche nomi veramente, cioè tipo Razzi, ma voi l'avete visto il video della canzone di Razzi? Cioè, capisci che se io sono consigliere di zona e quello è parlamentare, c'è qualcosa che non funziona. Cioè, a te Razzi ti fa vergognare? Assolutamente sì. Cioè, quando vai in televisione Razzi ti vergogni? Di più. Vorrei rintanarmi sotto la copertina. Allora, la diciamo tutta. Razzi, quando è venuto ieri da noi, ne ha dette anche poche in diretta. Dietro, fuori dal microfono, ne diceva di tutti i colori su questa Sardone. Comunque anche in diretta. Prima di tutto, lei si deve imparare un po' di educazione, a rispettare anche i colleghi di partito, perché i panni sporchi si lavano in casa. Io non vado a una televisione a parlare male di un mio collega di partito. È chiaro che se devo parlare di uno della sinistra o di uno del mio partito, ci mancherebbe altro. Io ho ricevuto 3.500 preferenze. Lei dice che è un consigliere di quartiere comunale, dice che ma io non lo conosco e non lo so, e non lo voglio manco sapere, non me ne frega niente. Che ha ricevuto una ventina, 21 voti, mi ha detto uno di Milano, che lo conosce. Sì. Ma, detto, ma lei chi vuole parlare? Dice ha ricevuto solo quelle dei parenti, dei vicini, di quartiere. Ma, ma allora dico, ma mi stava scappando una parolaccia. Vuole un po' di pubblicità. Si sta un po' a cosa, perché sapendo che attaccando a me attacca uno che... No, ma lei dice che vuole un partito diverso, un partito fatto da persone diverse. Si vergogna di me. Ma lei prima deve andare a lavorare 41 anni in Svizzera e poi ritorna poi può parlare. Perché va in Svizzera? Vabbè, però per ridere ricordiamoci di Razzi, che se ne faceva 3 al giorno di diverse nazionalità. E 3 al giorno. Tu sei arrivato a fartene 3 al giorno, David? 3 al giorno, nello stesso giorno, 3 diverse, boh, forse da ragazzi, non mi ricordo. Che forse da ragazzino, forse da ragazzino. Non te lo ricordo, so, una cosa che si dovrebbe ricordare. Ma certo che me lo ricordo, ma non sei lo dico alla radio. Ma perché non lo devi dire? Grande trasparenza. Perché appartiene alla mia 3 al giorno, 3 al giorno diverse. L'hai fatto o non l'hai fatto? Una domanda, risposta sì o no? Appartiene alla privacy. L'hai fatte 3 al giorno diverse o no? Tre al giorno diverse. C'è la privacy, cioè, il garante. Nel caso di Razzi era anche di diversa nazionalità, dice Razzi. Sì, questo ha detto. Questo di diverse nazionalità, in Svizzera, non so, passava gente di tutti i colori, evidentemente. Quanto so un giorno al massimo, con quante sei persone sei riuscito ad andare? Questo me lo ricordo perché tre. Era tre nazionalità diverse. Di tre nazionalità diverse. Sì. Io devo dire, sto facendo un veloce, no? Sto tornando indietro con la memoria. Due sicuramente sì, nello stesso giorno, due nello stesso giorno diverse, non di nazionalità diversa, perché più o meno io sono sempre rimasto, no? Sono sempre rimasto qui in questo ambito italico, in particolare italico. Sì, io ho bazzicato però poco donne straniere, però. No. Però. E tre forse no, lo sai che tre no, tre persone diverse nello stesso giorno, no, non credo. Adesso io parlo io, Razzi, non è che devi parlare tu, cioè... No, la cosa più bella di Razzi è che non sapeva che cos'erano le start-up, questo sì. Non sapeva cos'erano le start-up. La start-up. Dice, adesso ho iniziato una start-up. Ho iniziato una start-up. Sì, ho visto che molti giovani fanno questo start-up per il lavoro, perché hanno qualcosa di lavoro, ma io non... Sì, ma qualcosa di lavoro può essere tutto. Vabbè, siamo quasi. Pure le prostitute fanno le start-up. Iniziano un lavoro di prostituzione. Certo. Scusami. Vabbè, io... Non lo sa. Vabbè, andiamo. Roberto Monza. Pronto? Sì, dimmi. Ciao, stavo sentendo prima gli interventi sui fatti di Milano. Sì, sì. Mi avete fatto incazzare. Ma dove cazzo vivete? Ma io dico, adesso, questo è un caso a sé che andrà ancora discusso e tutto quanto. Ma avete capito che dietro queste cose comunque esistono veramente persone, ripeto, non è questo il caso che probabilmente vedremo quello che succederà, come verrà condannato. Esistono persone che se ne approfittano, c'è lo Stato dietro, perché un ufficiale giudiziario, un giudice. Cioè questo se l'è premeditata 10 giorni... Aspetta. Sì, dimmi. No, dimmi. Prosegui. Questa è premeditata per 10 giorni, è andato purtroppo, stiamo parlando di persone morte, a cercarli. E allora? Come allora? Cioè, se uno premedita una cosa del genere, se uno si mette in testa di ammazzare le persone, non per questo dietro ha delle ragioni. Cioè, può essere semplicemente il fatto che è disperato perché sì. ha fatto delle cazzate nella sua vita, certo. perché ha litigato con i soci, qualcuno l'ha fregato, non lo so, e arriva a già... Esatto. Ma tu hai assistito mai a un pignoramento? Sai quali sono le regole di un pignoramento? Quando ma qui non c'è stato nessun pignoramento in questo caso. Bancarotta. Sì, no, Parenzo. Capito, ma non è che tutti quelli che falliscono è perché lo Stato li porta al fallimento. Non è sempre così. Ma quello che voglio farvi capire a te... Vabbè, comunque lui dice... Una cosa dimmi. Cioè, è la contestualità del momento, capisci? Che vuol dire la contestualità? Ma parla come mangi, la contestualità del momento, che vuol dire? Stavo mangiando, scusa. La contestualità di questo momento italiano. L'Italia è finita e venduta. Questo sarà esempio... Scusa, però che vuol dire l'Italia è finita? Lui dice che siccome c'è la crisi e sono esatto, tantissimi, bravo. Questo sta dicendo lui. Io non lo condivido per nulla. Ma questo è fallito nel 2008 quando la crisi non c'era. Ma che di che state parlando? Questo, il primo fallimento di questo signore era nel 2008. È stato. Ma tu cosa ne sai del dopo? Vedi che non prendiamo questo sarà un fatto. Che sarà ma sai quanta gente starà dicendo mamma mia, ma come vorrei anch'io prendere quello che è venuto a pignorarmi questo, perché ti sfotto, cioè dietro un giro mangia in queste situazioni che fa paura, cioè nei tribunali fallimentari, fallimentari. Ma guarda, ma io oggi fossi un funzionario di Equitalia a sentire queste telefonate avrei davvero paura, guarda, perché ma infatti, a sentire... ma probabilmente si metteranno paura cioè, ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando? Ma no, io a sentire queste telefonate, ma io mi rendo conto, come purtroppo invece io avrei paura, guarda, avrei paura a essere un funzionario dello Stato di Equitalia, perché la devono smettere allora tu devi ma è terribile tutto questo, la devono smettere cosa? Deve smettere lei di dire stupidaggini e incitare alla violenza, va bene, restiamo sul vago, dai, va bene. Ma no, ma non è questione, guarda, l'avete fatto incazzare in un modo perché non vivete la realtà di quello che ho capito, ma cioè quando un assassino dice, in questo caso un assassino, un killer, questo perché lei non lo reputa un assassino questo qua? No certo, ah no, meno male. Allora questo qua, quando questo qua dice sono stato rovinato dal tribunale, odio i giudici, lei ci crede automaticamente, dice beh sì, è possibile che si sia rovinato dal tribunale, esatto, perché in altri casi la gente viene rovinata dai fallimenti. Questo è un caso che non c'entra niente. E allora basta! Ma contestualizziamolo in questo momento, capisci? Contestualizziamolo. Contestualizziamo. Cioè, è il momento italiano, è come contestualizzare, che ne so, le Torri Gemelle dicendo sì, però gli americani sono cattivi. Infatti, infatti, è lo stesso ragionamento. Siccome sono cattivi, allora mandiamo giusto. Beh, sì, però bisogna capirli. Sono lì che fanno quello che vogliono. No, appunto, ma lei la pensa esattamente come quelli. Lei la pensa esattamente come quelli che sostengono che gli americani se la sono cercata. Dunque, lei dice questi giudici, questi qua, alla fine se la sono un po' cercata. Cioè, se uno è pazzo, vabbè, lei dice addirittura che gli americani se la sono fatta da soli. Vabbè, peggio ancora, si arriverà a dire che questi giudici si sono autoammazzati, che ne non so. Non mi mettere in bocca parole che non ho detto, non si sono automazzati. Va bene, Roberto. Va bene, ci siamo capiti. Roberto, ciao. Un altro Roberto, provincia di Lecco, vai. Sì, buonasera Cruciani. Dimmi. Ovviamente quello che è successo è deplorevole, allora? Ma a parte la persona di quello che ha fatto, io vorrei che voi due, Cruciani e Parenzo, alcuni politici, partendo anche da Renzi, scendessero da quelle poltrone, andassero in mezzo a noi, perché io sono anch'io in mezzo a queste cose, e si trovasse davanti alla porta un ufficiale giudiziario piuttosto che una, veramente la povertà in mano, cosa allora? Significa arrancare tutti i giorni per mangiare. Scusa, ma questo qua è scappato con una moto grossa cilindrata, non è che arrancava per mangiare questo qua, cioè non era la mensa della Caritas, adesso con tutto rispetto per la famiglia, per i figli, per l'ex moglie, quello che vuole, non mi pare che facesse la fila la Caritas per mangiare, così mi impressione. Cioè non è che lo puoi paragonare a qualcuno che è rimasto senza un euro, era uno disperato perché aveva probabilmente fatto degli errori, qualcuno lo aveva tradito, non lo so, i soci l'avevano inculato, non lo so, non ho idea, però non lo sappiamo, ma non è uno che faceva la fila alla Caritas a Milano, a Roma, amico mio, non era così. Sto parlando del caso in sé, nella fattispecie. E allora che cosa? Che cosa? Ad esempio, ma non è un esempio, gli esempi sono i casi, sono tanti e diversi. Ripeto, non è che ha ammazzato, dice, è arrivato uno di Equitalia davanti alla porta, no? È arrivato uno davanti alla porta di Equitalia, gli dice mi dai 50.000 euro, altrimenti ti arrestiamo. Dice uno, impazzisce, piglia la pistola, spara e l'ammazza. Dice, vabbè, allora ragioniamo. No! Ma aiutateci, voi cavolo di Stato, aiutateci, perché cose che non fanno. Aiutateci, sì. Ad aiutarci, cioè noi non possiamo. Ho capito, ma è un caso diverso. Questo qua per aveva le tasse o per pagare giustamente. Ma da dove cacchio li prendiamo se qualcuno ci ha messo nei guai? Ma io sono d'accordo. Faccio un altro esempio, aspetti. Sì, dimmi. La mia compagna, lei la non compagna. Lei neanche ha idea di cosa sta passando. Le giusti mia madre che è morta X anni fa, e non ha idea di cosa sta passando con Poste Italiane. Ma che c'entra adesso? C'entra. Ma che c'entra adesso le Poste Italiane? Cioè, ma perché cosa? Perché cosa? Scusa, perché cosa? Allo sfinimento. Questo io sono ci porto. Poi, ovviamente, quello che si fa dopo, lo ha fatto questo signore, che non è giustamente non è giustificabile. Però la voglia di fare qualche cosa di importante viene, io non lo farò mai, è ovvio, è solo un pensiero. Ma non è questo il punto. Questo non faceva, questo non c'è. Lei è un dipendente. Ma che c'entra che sono un dipendente? Ah, Parenzo non è un dipendente, è un libero professionista. Non è che viene voglia di sparare. Ha un suo giro di lavoro, ha suoi clienti che lo pagano. Ma c'è stato periodi migliori e periodi peggiori, ma che c'entra? Sì, ma appunto, ma quando si parla con la pancia piena è molto facile giudicare e criticare. Ma quando senti, io giudico con la pancia piena e certamente non mi devo vergognare di avere la pancia piena, chiaro? Ho la pancia piena e non mi rompere i coglioni, chiaro? Ho la pancia piena e non mi dovete rompere i coglioni. Ma quando si vive la condizione, quando la si vive in prima persona, le cose si giudicano, si vedono. Vabbè, ma è chiaro, ma scusa, ma perché? Vabbè, ciao Roberto, ciao, ciao, ciao. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Allora, torniamo a parlare di Rom, caro Parenzo, perché c'è qualcuno che vuole chiedere addirittura un risarcimento galattico a Matteo Salvini per le sue uscite sui campi Rom da spazzare giusto, via, da radere al suolo. Come giusto? Come giusto? Cioè, secondo te lui dovrebbe pagare in tribunale Salvini per quello che ha detto sui campi Rom? Sai, c'è una parola che si chiama razzismo, che fino a quando... Ma perché non glielo dici in faccia quando lo incontri? Siccome spesso lo incontri per le tue... No, diglielo, sei un razzista. Ma allora non dovresti spesso nemmeno frequentarlo, non intervistarlo. Ma più, non frequentarlo. È un leader politico, lo frequento, perché è un leader politico, lo frequento. Però poi so che lui so che anche lui spesso le usa un po' strumentalmente, però lo conosco da 15 anni. E che e allora che c'entra? Lo conosco da 15 anni, nel senso che ho avuto un rapporto, non dico di amicizia, ma insomma lo conosco da tanto, allora? Da tanto tempo. E però definirlo razzista mi sembra il minimo. Ma secondo te Salvini è razzista? No, va benissimo. Allora, sto dicendo una c'è cosa, un signore mi vergogno qui della banalità di quel che benissimo dico, perché c'è un signore. Ma basta ascoltare Radio Padania, però. Ma che c'entra Radio Padania? Cioè, non è che uno è... No, beh, come che vuol dire? La gente uno che interviene è quel che radio dice, no? Benissimo, ma secondo te è razzista? Secondo te Salvini è razzista? Ma io non penso, secondo me, penso che anche lui riconosca che ha... No, veramente dice di no, sono... veramente dice il contrario. Dice di no, perché dice... sa che altrimenti, siccome nel nostro ma paese ancora devi, c'è una legge che nel che cervello tutela di Salvini, non ho capito, nel cerchi di entrare nel cervello di Salvini. Non lo dice, ma dentro di sé lo sa. No, penso di dire una cosa talmente banale che mi vergogno anche. Vabbè, benissimo, però io vorrei che tu la prossima volta... Secondo te non è razzista? Assolutamente no. Assolutamente no. Quindi dire spazzare via i campi Rom, i Rom non è una cosa schifo razzista. No, buon anno anche non è razzista? Vabbè, assolutamente no. Assolutamente. Sono idee diverse sulla società, ho sul capito mondo. Che cos'è? Posso chiederti che cos'è una parola razzista? I Ku Klux Klan sono razzisti, quelli che pensano di eliminare un'altra razza, di eliminarla. Siccome non sono razzisti, ma assolutamente no. Comunque, qui c'è un signore. Forza Nuova è razzista? Alcuni elementi di Forza Nuova sono razzisti, certo. Alcuni elementi. Alcuni elementi, sì, ma Forza Nuova è un partito manifestamente razzista. Ho capito. Allora, qui abbiamo un signore che è il presidente della Federazione Rom e Sinti, dunque sì, credo anche un Rom, che si chiama Davide Casadio, che vuole chiedere un sacco di soldi a Salvini di risarcimento per le frasi che ha detto. Signor Casadio, buonasera. Buonasera. Come sta? A tutti gli ascoltatori. Come bene, sta, signor Casadio? Senta, lei come bene, si bene può definire? Rom, Sinti? O, Io sono un Sinto. Lei è un Sinto. Che fa nella vita? Lavoro. Lavora come? Che lavoro fa? Non posso dire il mio lavoro perché... Come non può dire il suo lavoro? Della privacy. Ma che vuol dire la privacy? Lavoro. No, ma scusi, d'accordo, sì, benissimo. Ha un contratto Dio regolare di lavoro, no? Dove sì, la... sì. No, perché la privacy? Cioè il lavoro... Beh, può anche non dire ma che lavoro... Presidente... Perché devo tutelare un attimino. Io sto facendo questo che sto facendo, lo sto facendo di volontariato come presidente. Sì, d'accordo, ma presidente, personale, non può. Presidente della Federazione Roma e Sinti, immagino che non sia stipendiato, no? Avrà però un suo lavoro, cioè, che ne so, impiegato, libero professionista. Libero professionista, però non ci può dire che cosa fa. Bah, non posso. Grandi, i misteri della fede. Faccio come fa Salvini, tante cose le blocca. Cioè, in che vorrei senso? Imparare anch'io. In che senso, scusi? Cose, toccare la sua famiglia, toccare il suo... Ah, il la suo privacy, no, della privacy non si parla. Anche noi abbiamo le tutele delle privacy, anche noi, anche se siamo Sinti. Bravo, bravo. Forte. Bravo, cazzo. Stiamo imparando da Salvini. No, però, scusi, va benissimo. A me ognuno... Fate anche le felpe, secondo me. Io la metterei, una felpa come quelle di Rom. Ma lo faremo il 16 maggio a Bologna, metteremo tutte le felpe. Io vengo il 16 maggio, bravo. Vabbè, ma questo non rileva, guarda, adesso. Cioè, non siamo tutti i cittadini, guardi, chi vuole manifestare. Bellissima l'idea di fare una bella felpa, bene, di Salvini, la manifestazione è pacifica, non facciamo guerra. Certo, non è che uno dice che fa la manifestazione violenta, scusi, a casa Dio. Assolutamente. Ma no, vabbè, ma sarà sicuramente pacifica, non c'è dubbio. Però io voglio dire una cosa, fate delle belle felpe rosse, marroni, un po' marroncine, diciamo, con scritto Rom, non Roma, Rom, Sinti. Ma in Italia ci sono i Sinti e Rom, perché devo mettere solo Rom. Ma beh, Rom, Sinti, dire. Rom, sì. Poi alcune Sinti, altre Rom, così, cioè di colore un po' scuretto. Metteremo Salvini. In che senso? Là davanti, con la faccia di Salvini. Senta, ma scusi, Salvini, io voglio dire una cosa, ma lei mi risulta che sia anche un pastore, o sbaglio? Sì, sono un pastore evangelico. Pastore evangelico, che vuol dire? Scusi, sono ignorante io, che vuol dire pastore evangelico? Pastore protestante. Un pastore protestante, sì. Ma non è che fa questo di mestiere, vuol no? Vuol dire che si può sposare come facciamo pastore? Fa anche questo, cioè è retribuito in quanto pastore protestante. Cioè lei è un Sinti pastore. Ma perché scusami, un parroco non è retribuito. Se va a vedere sui siti Missione Evangelica Zigani in Italia, siamo i primi che hanno portato un recupero sociale. Ecco perché noi Missione parliamo. Evangelica Zigani in Italia. Siamo veramente al top qui, eh. Associata all'Assemblea di Dio. Associata all'Assemblea di Dio. Senta, signor Casa di Dio, ma lei vuole veramente casa Dio? Dunque, qualche attinenza c'è la casa di Dio, diciamo, casa di Dio, vabbè, una cazzata. Però io voglio dire una cosa, ma lei veramente vuole chiedere un sacco di milioni di euro a Salvini? Ascolta, se legge bene, non è che abbiamo chiesto, abbiamo avvertito di non andare oltre a quelli che sono i parametri. Ah, vabbè, ho capito. Allora, quelli anche gentili, che sono i parametri. Cioè, non avete subito denunziato, come direbbe l'avvocato, no? No, però siete lì. Siete pronti? Ma scusi, più di quello che hanno detto, che devono di signor Sinti? Adesso tutte le pratiche sono bloccate lì e noi agiremo prima possibile se lui ancora fa se ha queste tesi. Ma ne dicono di 20 al giorno. Sono persone civilissime. Però, ma io non ho detto che è incivile. Mi metti in bocca cosa che non ho detto. Ma danno, assolutamente. Senta, ma lei cosa rappresenta per i Rom? Cioè, cosa vuole rappresentare per i Rom, lei, signor Casadio? Io posso rappresentare una persona che si dà da fare per il diritto di tutti, non solo di Sinti e Rom, perché noi abbiamo aiutato anche i sedentari. Una specie di patriota dei Rom, come lo si può definire? Martin Luther King ha portato qualcosa di grande in America. Io non mi reputo un Martin Luther King, però diciamo nel piccolo contesto vuole essere il Martin Luther King dei Rom, dei Sinti. Ma ragazzi, vogliamo fare qualcosina anche noi per la nostra Italia, perché apparteniamo all'Italia. Lei è italiano? Abbiamo portato noi lo spettacolo viaggiante. Lei è andato in giostra perché l'abbiamo portata noi. In giostra, sì, sono andato, ho portato mia figlia qualche volta. Abbiamo portato lo spettacolo viaggiante. Senta, quando vede Salvini, lei cosa si immagina? Cosa si ricorda? Ma io vedo Salvini, vedo una persona che si sta facendo tanta politica per le votazioni. Infatti fa politica. Un paladino per dire che fa giustizia a tutti, però ho visto che quelli della Lega, quanto sono mancati dei soldi, non ha fatto giustizia nell'interno della Lega. Ha capito cosa devo dire? La legge è uguale per tutti. Cioè, non ho capito, ma veramente l'hanno fatti fuori politicamente quelli dopo un po'. Però politiche, però non sono andati. Cioè, lei vuole dire alcuni magari andranno. Io voglio dire una cosa. Solo Sinti e Rom? Scusa, devono tutti andare in galera. Cioè, lei dice che la Lega rubano più dei Rom, i leghisti hanno rubato? Non dico che rubano più dei Rom, però dico che tutti, l'occasione fa ladro tutti. Ho visto che senza toccare le cose che abbiamo qui in Italia, nel senso le persone no che ma io voglio dire quando lei vede Salvini la... quando lei vede Salvini in faccia chi si immagina, cioè che cosa c'è dentro Salvini secondo lei quando dice quella cosa? Io credo, allora io voglio tornare, perché la storia è importante, sappiamo benissimo la storia, certo, molto importante, certo. Allora Hitler aveva cominciato così a propagandare le legalità. Io non sto parlando di Salvini. Beh come no, io ho chiesto di Salvini, ma hai detto che c'è Hitler. Aspetta un attimo, lo spirito, allora Hitler è morto e non si può più. D'accordo, però lo spirito. Però alcuni possono far risuscitare il sistema di Hitler. Dentro Salvini c'è lo spirito di Hitler. No, no, no, no, assolutamente. Il sentimento diventa quello della legalità, come voleva fare Hitler, che diceva che i rom e sinti sono asociali. Allora, questo dipenderà dalla, da un... No, stai dicendo che potrebbe nascere un nuovo nazismo, diciamo. Sì, potrebbe nascere. Perché questo è un gemellaggio, bisogna stare attenti. Gemellaggio tra che cosa, scusa? Tra quello che potrebbe, da quello che è successo nella storia, possiamo fare. Lui ti sta dicendo che nel nazismo, davanti a situazioni... allora mi dica lei, no? Io gli faccio una domanda io. Sì. Come mai, da quanto in televisione Del Debbio con Quinta Colonna e da quanto Salvini sta facendo tutte queste propagande, sono morte delle persone, dei rom? Tu dici che alla fine portano ad ammazzare i rom? Come mai quel rom di Bergamo è stato sparato 4 colpi, gli hanno sparato nel campo? Cioè tu dici le parole dei leghisti istigano qualcuno a sparare? Ma dilla chiaramente, che c'hai paura. Non i leghisti, ma sicuramente delle persone. Io non parlo di leghe, io parlo di persone. Ma beh, la Lega, ma di quello stiamo parlando, non è che stiamo parlando di altre cose, c'è paura di dirlo. No, ma mi scusi, guardi che prima di essere Lega sono persone. E prima di essere rom e sinti sono persone come lei, come tutti gli altri che vivono in questo mondo. Vabbè, allora, stiamo parlando dei leghisti. Secondo lei le parole dei leghisti portano le persone a sparare? Attenzione, non tutti i leghisti. Attento al DDT, sai. Ti prego. If you start to feel like there's no time to waste, baby, try to let. È ancora a casa, allora prima di tornare con il nostro amico presidente della federazione Rom e Sinti, incazzatissimo con Salvini, con la Lega, ecco, è normale che sia, voglio farvi sentire la voce di un signore, un prete, caro Parenzo, un prete, perché l'abbiamo pizzicato oggi per telefono, questo prete. Sì. Si chiama Don Luigi De Rosa. Questo signore, Don Luigi De Rosa, fatemi trovare i fogli che mi sono perso nei fogli, ha detto che le persone, le donne che abortiscono, le donne che praticano l'aborto, che è legale in Italia, ovviamente la Chiesa non lo riconosce l'aborto, ma chi se ne frega, per fortuna non decide la Chiesa, le donne che praticano l'aborto sono delle sgualdrine, delle puttane. Ti giuro, ha detto così, sono delle sgualdrine e delle puttane, anzi che le prostitute sono più degne delle persone che praticano l'aborto. Si chiama Don Luigi De Rosa ed è parroco a Bairano Scalo, non so che provincia, Caserta, cos'è? Caserta, Benevento, una cosa di questo tipo. Allora, ovviamente l'abbiamo chiamato. Senti un po', perché poi queste persone quando si trovano di fronte, no, alla realtà, no, perché gli parte la penna su Facebook, no, su Facebook scrivono quelle sono delle sgualdrine, delle zoccole, delle puttane, quelle che abortiscono, che schifo, mi fate orrore, l'aborto è un omicidio, lo scrivono, poi non hanno il coraggio, le palle, i coglioni. Sentite. Pronto? Don Luigi? Sì? Sì, buonasera, sono Cruciani dal Sole 24 Ore, come sta? Don Luigi? Bene. Sì, senta, volevo parlare di quelle frasi che ho letto, non ho capito bene quelle frasi, me le può spiegare? Quali frasi? Quelle su Facebook, chi pensa di abortire, com'era scritto bene che non ho capito? Ma fa una cosa così, non mi ricordo neppure io, cosa dette così, per scherzo? Per scherzo, no, aspetti un attimo che le riprendo un secondo, scusi, su Facebook sto andando. Chi pensa di abortire una puttana, una troia oppure una sgualdrina, così lei ha scritto? No. Beh, come no? Sì. No, lei ha scritto chi pensa di abortire una puttana, una troia oppure una sgualdrina. Mi può spiegare il significato di questa frase? Ma ha detto una cosa per scherzo, perché si banalizzava la cosa, diciamo. Cos'è che si banalizzava, Don Luigi? Scusi. Don Luigi, scusi però. Si banalizzava che ognuno l'aborto come se non fosse niente, ecco. No, d'accordo, ma perché una puttana, una troia, una sgualdrina, ripeto? Come mai ha utilizzato queste frasi? Me lo spieghi? Io lo sto chiedendo tranquillamente, senza polemica. No, non l'ho capito. Nel senso che, ma può darsi che il contesto era quello di che uno con molta leggerezza potrebbe fare una cosa del genere. D'accordo, ma perché lei ha definito chi abortisce una puttana? Me lo spieghi, no? Sto cercando di capire. Ma non lo penso. Beh, come, non lo pensa? L'ha scritto, amico mio. L'ha scritto, scusi. Va bene, buona giornata. No, Don Luigi, lei è rappresentante del signore qui. Ma io sono le segue di una donna di 40 anni. Ho capito, ma lei ha scritto anche che ha più rispetto di una prostituta che di una donna che abortisce. Come mai? amici miei. Siamo al top, eh? Allora, perdonatemi per questa cosa, il rappresentante del signore, eh? Cioè, perché che dovevo fare? Cercavo di trattenerlo al telefono, ho detto: scusi, lei è il rappresentante, non può dirle, non del signore. Dire le bugie, ecco. Ma non so manco se si dice così: il rappresentante del signore sulla terra. Vabbè. Adesso, amico Fabio Carini, che è l'organizzatore di mille cose a te, che cazzo mi chiama a quest'ora? Amico Fabio Carini, scusate se mi intrometto, non mi chiamare al telefono, perché lo sai che alle 20:04, signor Carini, da Trieste, sono in diretta, dunque non mi rompere le balle. Ah. Siamo con un amico Rom, un amico di Parenzo, dunque, un amico Sinti, Davide Casadio, presidente dell'operazione Roma Sinti. Che lavora, non lavora. Siamo riusciti a capire che lavoro fa, perché non lo vuole dire per motivi di privacy, non si capisce cosa. Ma lei teme di essere minacciato, cioè, anzi, viene minacciato, teme di ritorsione. Cioè, lei i leghisti li teme, cioè, dal punto di vista un po' fisico? Assolutamente, o no? Assolutamente. No. E gli italiani perché hanno questi pregiudizi sui Rom? Io ogni giorno leggo di storie incredibili. Perché? Come fa lei? Legge sulla stampa, legge qualcosa in giro. Ah, cioè la stampa informa può male essere, sui Rom. Può essere. Ma non può essere. Lei dice sempre può essere, forse, ma sia più. È tutto facoltativo, cioè le cose sono dette e poi bisogna vedere se sono reali. Cioè lei dice i Rom non rubano, Ma sicuramente qualcuno ruba come lei, sì. Di dov'è? Lei no, di ma qualcuno di Roma, abito a Milano da 15 anni. Secondo lei a Roma non ci sono dei romani che rubano? Beh sì, certo, è pieno di romani che rubano, allora, non c'è dubbio. Chi ruba, però diciamo che nella comunità Roma... Ma si vedono, perché si vedono? No, però scusi, signor Sinti, sono talmente sciocchi che si vedono quelli che rubano. E te lo dicono pure. Cioè, sembrano tanti, perché sono alcuni talmente sciocchi... Adesso queste sono tutte... E te lo dicono! Queste sono tutte cazzate. Allora, ho sentito in televisione da due giorni, sento in televisione, mattino 5, altre trasmissioni... Dicono tutti che non hanno mai rubato. Caro Casadio, dei suoi, come dire, come si può dire, delle persone Rom, Sinti come lei, bambini Rom, appartenenze alle minoranze, a minoranze eccetera, sì. I quali sostengono di facciamo 1.000 euro al giorno, che se muoiono i vecchi non ce ne frega niente. Ma dove è scritto questa cosa dei 1.000 euro al giorno? Io vorrei sapere. È quella che lo dice, è una bambina che lo dice. Chi le dà i 1.000 euro al giorno? Chi le dà? Ma li rubano, non è che li danno, li rubano in giro, li rubano. Che devono andare in galera, se uno ruba va in galera come tutti gli altri, scusi, perché dobbiamo prendere un popolo, prendere di mira tutti? No, ma credo perché forse il tasso di criminalità, di microcriminalità all'interno dei Rom è abbastanza elevato, no? Nemmeno questo si può dire? In tanti casi se va giù a Napoli, anche a Napoli ci sono i furti, se va giù a Milano ci sono i furti, cioè i furti ci sono in tutto il mondo, non è solo in Italia. D'accordo. Allora, secondo lei il problema Rom non esiste? Ma non è colpa di Roma il sinto, scusate. No, scusi. Se dobbiamo integrare le persone, bisogna integrarle e basta. Ma secondo lei si vogliono integrare, ma se lei non ci vuole manco di che lavoro fa? Ma guarda che ci sono anche dei italiani disoccupati che vanno a rubare, che commerciano, sì, fanno i ricettatori di quelli che rubano. Scusi, il rame chi lo traffica il rame oggi in Italia? Un italiano come lei. No, io veramente. Come lei, come me. No, italiano sì, però sì, Rom in particolare. Il ricettatore, ascoltate, si sente solo di Rom e Sinti, si sente solo il diverso, no? E dunque che c'è un complotto della stampa, un grande complotto della stampa. Scusate un attimo, ma i ricettatori in Italia, ma certo, ma nessuno dice che non ci sono criminali italiani. Allora, c'è la complicità. Qua c'è un Caino e Abele che bisogna andare a cercare chi è il colpevole. Allora. Bisogna stare attenti a quello che si diffonde in giro. Perché senta, Martin Luther King dei Sinti. Scusi, lei anche con la radio, lei gioca tanto con la radio, ma bisogna stare attenti anche a lei. In che senso? Perché, scusi? Lei sta perché deve stare attento anche a lei, perché sta giudicando, sta fomentando delle cose, lei sta facendo il suo lavoro e ognuno fa il suo lavoro. Ma io non sto fomentando niente, guardi, io faccio un programma in cui ognuno esprime la propria idea, Parenzo ne esprime una, io ne esprimo una, gli ascoltatori dicono la loro opinione. Libertà di pensiero dobbiamo averla, ma non dobbiamo colpire i popoli. Non dobbiamo? Quanto va in galera un Rom, un Sinto, un cinese c'ha il nome e cognome e basta. Dobbiamo finirla di strumentalizzare. Non facciamo rivivere Hitler, non facciamo rivivere i dittatori che hanno portato lo sterminio. Lei sta dicendo noi che Salvini e i leghisti fanno rivivere Hitler. È normale, guarda che ma è normale un cazzo. Hitler è una cosa e Salvini è un'altra, scusi. Ah, lei se ne intende di più perché parla in radio. Ma non me ne intendo di più, ma lei sta facendo un paragone tra Salvini e Hitler. Perché è bravo a parlare, ma chi è lei? Scusi, ma chi è lei? Lei si dovrebbe fare per coscienza a dire, ma la realtà è il dato di fatto di oggi, cosa sta succedendo in Italia? Che sta succedendo? Me lo dica lei, me lo spieghi lei. No, io lo dico. Il problema è di tutti, l'abbiamo nelle nostre case? Dunque il problema non sono i Rom, non sono un problema. Ma è un piccolo problema confronto a tutto quello che sta succedendo in Italia. Cioè le dice, è una piccola cosa rispetto a tutti i traffici, ruberie, eccetera. Quanti sono i sinti rom in Italia? Lei lo sa, 180.000, sì, 180.000. Ecco, sì. Sono, lo so, sono ferrato. Quelli che stanno nei campi rom sono anche, credo, il 40.000 o 60.000. I campi rom, chi l'ha creati? Scusi, ma secondo l'hanno creati? Ho capito, ma le perché politiche, no? Ma perché i... coloro che hanno lei dove abita? Lei dove abita? Scusi, dove abita lei, signor Mattarella? A casa mia. Casa quale? In Veneto. Ma in Veneto, sì, lo so, ho capito, ma che, casa, che tipo di casa? Sarà. Che tipo di casa? Casa in muro. Casa in muro, normale, no? Ha cercato un affitto, sì, normalmente. Sì. Perché gli altri non so, sì, cercano l'affitto da soli? Perché danno le possibilità di integrarsi e tanti no, perché in tanti... Cioè, secondo lei è giusto dare soldi per i rom? Secondo lei è giusto sborsare soldi? Ma come dare soldi per i rom? Cosa stanno dicendo? Aiutare economicamente i rom? Che ne so? Ma, i camp- scusa un attimo, ma perché allora, allora perché la Commissione Europea, l'Unione Europea stanzia per poter integrare sinti e rom? Ci sarà un motivo o se lo sono inventati così? Beh, perché spesso le cose vengono inventate per lucrare, per lucrare quattrini sopra, per le associazioni, in Europa, eccetera. Ci sono 12 milioni di sinti e rom che stanno, che vivono, vivono nei stati membri, cioè in tutta Europa. Mm. Allora, il problema qua in Italia... Cioè, ma secondo lei bisogna dare le case ai rom? Ma c'è un'esclusione sociale, dai. No, ma bisogna, secondo lei bisogna dare le case ai rom, signor Martin Luther King? Dare le case, ma scusi, ma per farle andare fuori di campi, dove no, ma bisogna le dare le case, cioè lo Stato dovrebbe dare case ai rom. A Venezia l'hanno fatto. Sì o no? Danno le possibilità, bisogna... Ma perché non andate in un'agenza? Lei è andato in un'agenzia immobiliare, come l'ha avuta la casa? Ma sì. Ma e allora vanno tutti in agenzia, o uno è nomade, va costruita o uno è nomade. Cultura dell'abitare, non ci sono più i nomadi, non ci sono benissimo, più i nomadi. Benissimo, e allora trovate, allora bussate l'agenzia di cosa, non, no, perché dovete chiedere allo Stato? Ci sono dei rom che si sono sposati, dei cittadini italiani. E certo, assolutamente, ottimo. Ci sono stupendo. I matrimoni misti in tutti. In tutta ottimo, Europa, meraviglioso, stupendo. Si devono integrare, ma devono dare la possibilità, devono aprire le porte, devono avere, come fa la Francia, la Germania, hanno riconosciuto l'olocausto, hanno riconosciuto i rom. Ma si sta, sì, secondo lei, si sta consumando una specie di olocausto anche in Italia o no? Hanno riconosciuto l'olocausto. No, ma voglio dire un'altra cosa. È un negare, sì, il diritto, scusatemi. Qua è un negare, negare tutto. Il diritto, bah. Qua, sì, è un negare. Vabbè, ma è giusto, è giusto aiutare. Ma, con... beh, ma io gli dico una cosa: sa perché succede questo? Glielo perché? Dico subito. Perché? Perché in Europa, negli stati membri, sì, in Europa, in Germania, in Francia, in tutti. Sì. In tutti i nostri, sì, stati membri, sì, ci sono dei nomi e dei sinti che vanno, lavorano al Parlamento, qui in Italia no. Cioè? Vero, giusto, bisognerebbe, cioè, avere dei rom in Parlamento. Abbiamo, non abbiamo dei parlamentari. Ah, abbiamo ho capito, cioè bisognerebbe avere, Parlamento. Bisogna avere, no, diciamo, delle quote no, rom quote in Parlamento. Eh sì, la eh parità. Sì, la parità, i rom in Parlamento, le quote rom in Parlamento. Siamo no, ma lui ha ragione, vero, su una cosa. Basta, non ne posso più, le quote rom in Parlamento. Guarda che lui ha ragione quando... Non ce la faccio. No, scusami, ma prova a mandare... Prova Casadio... Casadio sarà d'accordo, credo, con me. Se Salvini dicesse bisogna mandare le ruspe a Scampia, ad esempio, dove sono le famose vele, e buttarle giù, in quel territorio ci sarebbe un'insurrezione popolare. Cioè la gente... scenderebbe in piazza e allora? Salvini, cosa vuoi buttar giù? Cioè il degrado è allora? Dappertutto, questo è il punto. Vabbè. Quando Salvini dice che manda le ruspe i rom in Parlamento, ma lei manderebbe una ruspa a casa Salvini? Sì? Lei manderebbe una ruspa a casa di Salvini? No. Nessuno può mandare una ruspa. Ma che ne so, motivo? Per ritorsione. Ma sì, ma sono cose tanto per dire. Io dico una cosa. Ascolti bene quello che dico. Qua non si gioca con i sentimenti e con le persone. Lei deve capire una cosa, devo capire? Tutti i radioascoltatori, che l'Italia? Non è razzista, sono i giornalismi, sono tutto quello che fomentano nelle menti delle persone, che la paura del... Cioè lei dice persone. Che per esempio questi servizi di Mediaset, di Canale 5 eccetera, sono tutte cose... Ma Mediaset sappiamo, è tutto una... perché non ci chiamano noi in televisione? Cioè lei dice che lo fanno apposta, lo fanno apposta per fomentare odio. No, ma come mai non ci chiamano? Ma lei sta criticando questi qua, me lo dica, perché sono tutte cose artefatte, hanno montato dei servizi, hanno pagato questi qua. Solo si parla solo nel negativo, non hanno mai visto. E che interesse hanno per fare audience? Ma scusate, ma sapevate che Lubriner era uno dell'ONU che è stato premiato? Perché c'entra? Come perché... ambasciatore? Vabbè, allora è un rom. È un rom, non lo so, lei lo dice che è un rom. Sì, sì, no, ma vabbè, ma si aggiorni sui siti, si aggiorni. Vabbè, ma anche il Brilliant Euro, ma ce ne faremo una ragione, che te devo fare? Ci sono tanti artisti, ancora adesso dei carabinieri, dei dottori che sono qui in Italia, vabbè, che lavorano, non dicono che sono Rom e Sinti, perché da gran che sentono sulle televisioni Rom e Sinti è il problema. I bambini che vanno a scuola diventano sì, Rom e Sinti. Il problema della società, ma immaginiamo moralmente, vanno a scuola, diciamo, oggi portando. Ho letto una notizia che 41 Rom sono stati denunciati perché non mandano i figli a scuola, 41 quelli, Rom, 41, scusi, 41 tutti i cittadini italiani, Rom e Sinti, sì, Rom e Sinti, perché ci sono anche dei Rom allora? Italiani nati in Italia, vanno a scuola e frequentano le scuole. Ma e quelli che oggi sono leggo che 41 fuori. Rom sono stati denunciati, sì, perché non mandano i bambini a scuola. Succede che le famiglie sono le prime che si lamentano, no, per perché ci sono i Rom nelle classi, Ascoltate, no, perché bene, poi succede questo. Ti devo lasciare, casa Dio, ti devo lasciare. Quello che sta succedendo, quello che sta succedendo. Che cos'è? Un olocausto? Cos'è? No, diventa un olocausto anche moralmente. Un olocausto morale. Siamo già uccisi noi, ci hanno ucciso due volte ancora oggi in Italia. I leghisti, con la complicità dei leghisti. Ma i leghisti si stanno facendo la loro pubblicità per loro, le loro campagne e basta, poi alla fine mangiano e bevono con i Rom e Sinti. Ma mangiano e bevono con i Rom e Sinti, non mi risulta. Ciao, ciao amico mio, ciao, casa Dio, ciao. Come siete pazzeschi, Giuseppe, sai che sono innamorato di te? Caro David, ci sono tanti cognomi. Ma senti questa notizia, dimmi. Sul fronte immigrati, molto divertente, farti vedere. Viterbo, cronaca di Viterbo. Si finge negro per mendicare ai semafori. Sì. Cioè, questo signore temeva che in quanto rumeno la gente gli negasse l'elemosina. Cioè, questo qui è un rumeno. Dice, siccome i rumeni... Si è finto negro, paura, perché invece con i negri, ai semafori la gente... No, perché dice, magari c'è più benevolenza, E chi se ne frega, magari. Allora, questo qui si inventa e si finge negro per mendicare il semaforo se sia rumeno, cioè capisce che siccome intorno a lui il rumeno tu hai mai è dato soldi ai semafori? Male. Io mai dato soldi ai semafori, e sinceramente non me ne pento. Volta mi può essere sinceramente capitato, sicuro, non me ne pento, non me ne pento. Allora no, ci sono un sacco di cognomi, un po' delicati, un po' insomma dire, no? Uno che si chiama per esempio Piscia, no? Cioè tu te lo immagini a chiamarti Piscia di cognome? Cioè David Piscia non è bello, Giuseppe Piscia, diciamo la verità. Però il mio cognome non è bello, però se tu ti chiami Piscia, diciamola tutta, diciamola chiaramente, come Schettino l'altra settimana, no? Schettino ormai è entrato nell'immaginario popolare, però qualcuno dice chi se ne frega, io mi tengo il nome Schettino e non me ne frega niente. Ma il cognome Piscia non è bello, se io mi chiamassi Piscia un po', devo dire la verità, un po' mi vergognerei. Ma sì, cercherei in tutti i modi. Comunque alcuni comuni di cambiarlo. Beh, sì, amico mio, sì, devo dire la verità. Mi chiamassi Piscia, ho capito, ma le cose si cambiano nella vita. Ma uno non ti puoi chiamare Piscia. Pensa, si conduce una trasmissione a Giuseppe Piscia. Non è bello. Ma sarebbe invece ma non è bello, non è bello, non è bello. Beh, no, sarebbe più corretto. No, dovresti cambiarlo perché sarebbe più in sintonia con quel che si fa. No, ma non dire cazzate. Comunque, guarda, i comuni italiani, questa è veramente un'azione importante che stanno facendo alcuni comuni. No, per me è una vergogna quello che fanno. Perché dici? Si telefona perché è brutta. Guarda, vuoi sapere i nomi, poi anche questi funzionari, il modo come parlano, come si pongono, guarda, mi mettono un nervoso quando li sento. No, li manderei a quel paese anch'io. No, ci sono dei funzionari dei comuni, sono delle iniziative prese dai comuni italiani. Sbagliate. No, secondo me anche giustificate, perché alcuni comuni italiani che hanno una serie di persone che si chiamano Piscia, non è bellissimo. No, cioè, dicono, non noi, puoi telefonare a casa Piscia, la gente. Piscia di Caivano. Beh, il comune di Caivano dice, cazzo, ma c'ho 20 persone che si chiamano che Piscia. Frega il comune. Ma non è bella come immagine, no? Cioè, ma metti che uno diventa sindaco Piscia. Beh, insomma, dai. Beh, comunque, i comuni italiani hanno preso un'iniziativa, alcuni comuni italiani, basta con i cognomi Piscia, eccetera, eccetera, eccetera. Sentiamo come va con i cittadini, se cercano di convincere, vediamo come va a finire. Pronto? Sì, buongiorno, chiamo dal comune, sto cercando il signor Aldo Piscia. Sì. Sì, buongiorno. Lei sa vero che deve cambiare cognome? Perché devo cambiare cognome? E il comune ritiene che certi cognomi vadano cambiati perché generano imbarazzo. Ma io ho sempre avuto quel cognome lì, perché lo devo cambiare? Perché genera situazioni di discredito per il comune, signor Piscia. Come discredito? È una questione d'immagine, il comune fa brutta figura. Vadi, lasci stare, a me mi sta bene anche così, poi se pigliano in giro quello che vogliono... Sì. Buongiorno, Armando Piscia? Sì. Buongiorno, io chiamo dal comune. Lei è stato informato, vero, che deve cambiare cognome? Ma io non ho mica tempo da perdere con voi altri, con queste cagate. Alma Piscia? Sì. Sì, buongiorno, chiamo dal comune. Volevo informarla che il comune stanzia 1.000 euro se cambia cognome. Perché? Che nome mi mettete? Che cognome prendo? No, bisogna apportare qualche modifica di vocale, consonante, insomma, purché non sia Piscia, lei mi capisce. Sa perché rido? Che io ho fatto tanto di quel nascondere, quel Piscia. Sì, pronto? Sì, buongiorno, Beniamino Piscia? Sì, buongiorno. Buongiorno, la chiamo dal comune. Il suo cognome, insomma, non è un bel sentire. Il suo com'è? Colombo, ma non credo Colombo. Che la cosa possa essere particolarmente interessante per lei. Insomma, guardi, insomma, tra Colombo e Piscia non è che... Vuole cambiare cognome o non vuole cambiare cognome? Ecco, e allora io la mando a fare un culo. Perfetto, proprio la ringrazio. Così, molto gentile. Così, tranquillamente. La ringrazio. Pronto? Sì, buongiorno, parlo con Paolo Piscia. Sì, sì. Il comune però ha deciso di stanziare una somma di 1.000 euro per chi volesse cambiare cognome. Sì, sì, no, va bene, allora ok, va bene. Il cognome si può cambiare a patto che non devo tirare fuori i soldi io. Cioè, se il comune paga... Lei non si è mai sentito in imbarazzo? Sono 32 anni che faccio arti marziali. Una volta a scuola... mi hanno preso in giro e ho scelto subito quello più grosso, ho fatto capire un po' subito come andare, mi hanno sempre portato rispetto, insomma. Quindi lei l'ha bastonato? Eh sì, sì. Pronto? Sì, buongiorno, Costante Piscia? Sì. Sì, buongiorno, la chiamo dal comune. Credo lei sia stato già informato che per una questione d'immagine il comune ha deciso di cambiare alcuni cognomi sconvenienti, fra i quali il suo. Beh, li cambio quelli altri, il mio non lo cambio. No stop signs. Vabbè, dai, forza. C'è uno che vuole pure i soldi. Io insisterei con quello con i soldi, Che dici? Ma quello scherzava. Ma che scherzava? Secondo che scherzava? Scherzava. Dai, su Paolo, provincia di Fermo, vai Paolo. Buonasera, pronto? Dimmi. Pronto? Buonasera. Sì, sì, sì. Io volevo essere solidale a Del Debbio, perché è impossibile accusarlo di andare contro i rom, di mandare avanti le persone a fare degli atti contro i rom. Lavoro, Vabbè, allora vabbè, no. Solidale con Del Debbio, poi andiamo avanti. Questo. Il Parenzo non ha espresso una parola per tutelare un collega. Lui vabbè, ma chi se ne frega, dai ragazzi. Fa bene il suo ma lavoro, chi se ne frega, fa bene il giornalista. Paolo, vai avanti, forza, dai. Che vuoi dire? Il consiglio che voglio dare anche al sindaco Formaggio, sì. Quando viene Parenzo con i SIM, con i SIM, tutti quanti, SIM, ROM, sono le carte del telefono. Basta un treno e li deve mandare in quel paese. Le deve mandare in quel paese, in quale? Paese, non ho capito. Scusa. Un treno lontano. Poi lontano col treno, come i nazisti mettevano nei treni, no? Non so, perché Parenzo prende sempre le loro imprese, forse perché la storia li accomuna, non so. Bravo. Perché lui... Bravo. Sì, probabilmente sì, probabilmente anche bravo il giovane nipote Nazistello. Va bene, Ennio bravo, Milano, vai, Ennio Nazistello. Da Milano, forza. Ennio, pronto? Dimmi Ennio. Sì, Cruciani, senta, io ho chiamato perché sono fallito nel 2007, no? Sì, sì. E... colpa mia, non do colpa a nessuno, cioè, non sono stato un bravo amministratore della mia società e è andato come è andato, mi hanno portato via tutto e buonanotte ai suonatori. Però quello che fa incazzare ma da matti è che io un giorno mi sollevo la corrente del telefono e dice buongiorno, sono Pinco Pallino, il curatore della sua, del suo fallimento, no? Per 1.000 euro sono fallito, penso che non sono pirla. Sì. E, da quel momento in poi io non sono più esistito come essere umano. Questo succede a molti, cioè io ho detto magari volevo contestare qualcosa, sono andato per prendere un avvocato. Non ho diritto all'avvocato, uno che fallisce non ha diritto a prendersi un avvocato. Beh, non ha diritto all'avvocato, questo non credo, insomma. No, glielo posso garantire, se non sono cose che sono parte del fallimento è una morte sociale, però ci sono i pazzi, quelli si suicidano e quelli come quel cretino che ha sparato ieri al tribunale. Lei ci vuole semplicemente dire con questa telefonata che il fallimento distrugge la vita di una persona. Ma veramente, guardi, no, ma io lo capisco questo, ma chi dice il contrario? Ho finito di pagare tutto quello che dovevo pagare. Sì, però lei non ha preso una pistola, non ha ammazzato il giudice, non ha ammazzato il suo ex avvocato, non ha ammazzato il suo ex socio. La rabbia quando sono andato in tribunale o a rivolgermi per qualcosa per dire ma guardi che è la casa, non me la può portare via per questo, questo e questo. Ma no, non può fare niente, vieni qua con l'avvocato. Però dico, io sono fallito. No, no, allora lei non può venire, deve venire il curatore. Dico, ma cazzo, ma no, niente, niente. Ah, il curatore fallimentare. Lei non ha diritto ad avere un avvocato. Sì, lei però è in mano al curatore. Allora a quel punto lì uno un po' gli girano le palle, perché dici, cazzo, ho pagato le tasse, ho pagato tutto per 30 anni, ho dato da lavorare a delle persone, poi lasciamo perdere, mi hanno truffato, ho sbagliato, la colpa è mia, perché quando uno sbaglia la colpa è sua, non è colpa di qualcun altro, colpa è tua. Non ma io non voglio sottovalutare i drammi delle persone quando per cause X, 1, 2, 3, 4, responsabilità proprie, truffe degli altri, queste persone falliscono, perché i fallimenti in Italia purtroppo falliscono solo i piccoli, i grandi falliscono poco, cadono sempre in piede, no? I grandi imprenditori italiani, eccetera, eccetera, su questo non c'è dubbio. Deve scusare, io lo capisco. No, io lo capisco, non volevo, quando ho bistrattato, ho trattato male gli ascoltatori di prima, non è perché voglio dire che non capisco i drammi, io i drammi li capisco, però ci sono molte persone che giustificano, che hanno giustificato. Io li lascio parlare, c'è qualcuno, Stefano Balassone credo si chiami, un ex consigliere di amministrazione della RAI, che oggi su fattoquotidiano.it attacca questa trasmissione definendola in un certo modo, ma di questo me ne fotto perché sono abituato, dicendo ieri sera alla Zanzara hanno parlato quelli che appoggiano e difendono il killer di Milano. E allora qual è il punto? Qual è il punto? C'è un gioco delle parti tra il conduttore, tra Cruciani e Parenzo. Cruciani lascia parlare mentre Parenzo li attaccava. Ma io spesso mi trovo in disaccordo con alcune cose che dice lei. Nessun gioco delle parti. Che dice Parenzo, vi ascolto tutte le sere. Imparo anche quello che magari io non la penso nello stesso modo, però imparo qualcosa. Io gliel'ho già detto una volta, ho avuto la fortuna di parlare con lei per un'altra cosa. La cosa che mi ha colpito di lei, ho cominciato a sentirla perché mi ha detto: io voto, un minuto dopo mi sono disinnamorato di quello che ho votato, basta. Per dire, quella è una cosa geniale. Anche io voto, poi alla fine non ho votato, cazzo di che io ho votato, poi se ho sbagliato, volta dopo. Va bene, Ennio, grazie. Ciao. Grazie Alberto Vicenza, vai. Alberto. Sì, ciao Giuseppe, ciao Davide. Niente, io volevo parlare della strage di ieri che è avvenuta in procura. Trovo una sciocchezza dire che adesso servono i metal detector nei tribunali, perché c'è un pazzo si è inventato di compiere una strage, allora se domani uno gli muore un familiare in ospedale, questo va in ospedale ad ammazzare quattro dottori. Allora adesso mettiamo i metal detector in tutti gli ospedali. Ma è vero, sì, tu hai ragione. Li mettiamo anche nelle poste, li possiamo mettere nelle università, nei treni, nelle stazioni. È vero che i tribunali sono luoghi più sensibili. Questo è ma vero, tutti sono luoghi sensibili. Allora blindiamo tutto. Blindiamo tutto. Fino adesso i tribunali, molti tribunali, non tutti, come dire, se la sono cavata senza controlli e nessuno ha messo bombe nei tribunali, dentro, se nessuno ha preso la pistola e ha fatto una strage, ci sarà un cazzo di motivo, beh, no? Anche perché ci comunque dissuade un po' avere questi controlli, seppur blandi, ma sapere di avere un metal detector che funziona. Vabbè, funziona, allora ragazzi, adesso assisteremo a questa grandissima spesa pubblica in tutti i tribunali italiani dei metal detector, le file pazzesche per entrare come è successo oggi a Milano, ovviamente dopo una strage. Le fai anche quando vai all'aeroporto, Ha ragione Alberto. Quando prendi l'aereo parti Alberto, un'ora prima da casa Alberto. Perché sai che devi fare i controlli. Ma tutti questi geni, per esempio, di magistrati oggi dell'Associazione Nazionale Magistrati e altri che dicono che la giustizia, no, hanno isolato la giustizia, eccetera, eccetera. Ma ce ne fosse stato uno di questi valentissimi magistrati, rappresentanti sindacali, eccetera, eccetera, che abbia in questi giorni, in questi mesi, direi anche in questi anni, alzato la voce per dire il Tribunale di Milano è insicuro, bisogna provvedere subito. Ce n'è stato uno? A me non mi sembra, a me non risulta che ci sia stato uno dei grandi sindacati dei magistrati, ANM, eccetera, eccetera, eccetera, e tutti i sindacati di Magistratura Democratica, che abbia alzato il dito per dire: beh, forse c'è qualcosa da fare. Magari non lo sappiamo, magari non lo sappiamo, hanno fatto comunicati interni, ma io non ne ho visto uno, non ho sentito uno di magistrato famoso o conosciuto sindacalista che abbia detto: guardate, c'è un problema grave al Tribunale di Milano. Nessuno lo ha detto, nessuno. Parenzo ama gli zingari perché probabilmente lo somatizzano. Ma Parenzo ama essere somatizzato dagli zingari? Allora andiamo con Bruno, provincia di Brescia. Vai Bruno. Bruno. Salve Cucciari. Dimmi, dimmi. Senti? Sì, ti sento. Allora, volevo parlare un attimino il fatto di Milano, no? Sì. Con il signor Parenzo. Sì. Che sì. Dal primo giorno ha messo in evidenza che è un italiano. Sì, certo. Beh, sì, certo, è un italiano, non c'è dubbio. Italiano. Su questo non c'è dubbio. Sì, fatto sì, apposta, sì. Certo. Ma il modo in cui lui lo dice, sì. Certo. Come se ha un senso di disprezzo. No. Con il signor Parenzo. No, no quello no, ha detto... No, no. No. No, non c'è nessun disprezzo, Bruno. Ho no. detto che è italiano, l'ho detto in modo provocatorio, ripetuto più vabbè, volte allora, apposta. Ma... No, no, però, no, no, e allora non mi sembra sì. una frase detta da uno illustre come il signor Parenzo. Ma non ho capito niente, illustre, non illustre, Parenzo, la frase. Che vuoi dire, italiano. Bruno? Allora, che è sbagliato sottolineare, è sbagliato sottolineare certo, che è italiano? Certo. È sbagliato. Vabbè, lui certo, l'ha voluto fare perché siccome si parla di criminalità degli no, extracomunitari, di criminalità dei Rom, eccetera, eccetera, lui ha voluto sottolineare che è un italiano. In modo un italiano. Provocatorio l'ha fatto, ovvio. Sì, ma, diciamo, ha voluto sottolineare, come oggi credo ho letto un articolo su Repubblica di Gad Lerner, che il terrore a Milano non l'hanno portato i Rom, non l'hanno portato gli extracomunitari, ma l'ha portato un signore bianco, nato e cresciuto, sì, sì. Nato al sud, ma insomma cresciuto in Brianza. Sono questi che portano, secondo Parenzo, secondo me questo ma, ragionamento è una stronzata pazzesca, italiano, ma comunque vabbè. Il gesto di quel signore l'ha condannato, capito? Vabbè, sono sì, pochi i pazzi che fanno... Vabbè. La casta per aiutarlo, capito? Però no, Parenzo ma... come parla? Parla in modo che insospettisce. Insospettisce. Vabbè, ho capito. Poi ciao, amico uno... mio. Ho capito. Ciao. No, no, aspetta. Dimmi, che c'è? Stai a guidare il camion? Aspetta. Che stai a fare? Stai guidando il camion? No, io sto guidando il pullman. Il pullman. Che pullman? Io ho 50 persone che mi sentono. No, ecco, ma fermo, tenga le mani mio. Sul fermo, volante. Fermo. Per 50 persone sentono chi sono questi qua? Chi stai trattando? Tutta gente. Io sono l'unico ignorante. No, ma non ho capito, Bruno, chi stai portando in questo pullman? Sto portando delle persone che lavorano nelle banche. Lavorano nelle, ma loro lo sanno che stai parlando con la zanzara? Sì, lo sanno. Cioè, c'hai che c'hai? Ma le mani, tienile sul volante. C'hai lo stereo però. Là. Alza le mani! No, alza le mani! No. Tira via le mani dal non volante! Non ti preoccupare, il volante mio è tutto a posto, perché tutte e due le mani là. Potrei guidare anche con la pancia io. Beh, insomma, perché adesso non esagero. Mio lo sa fare. Ma non ho capito, ma stanno sono all'ascolto della zanzara questi signori? Certo, io lo metto sempre, io da anni. Ottimo. Alle 6:30, alle 18:30 io canto tutto e sento a te, pare. Bruno, questa cosa qui ti perdono dalle cazzate che dici. Questa cosa qui ti no, fa. No, quale cazzate? Quale cazzate? Le cazzate le dice Parenzo. Ah, tu dici che ha detto una cazzata sì. Perché ha sottolineato il fatto che questo qua è sì, bianco, sì, italiano, lui... eccetera. Italiano, italiano. Ha sottolineato rigorosamente come italiano. Dire che giustifica i Rom per giustificare no, non i Rom giustifica per niente. Questa gente qua, prendevo capito? In giro prendevo in giro quelli che sottolineano ogni qualvolta viene commesso sì. un reato la nazionalità tutto qui e invece dice che il vero terrore lo portano no, in non questo... è il vero terrore beh, mi pare che negli ultimi anni però questo sia stato vabbè un ciao, uno dei fatti Bruno, più sconvolgenti continua, per Milano continua a sentirci nel tuo autobus. In collegamento con noi una persona che finalmente ha avuto l'incontro della sua vita, una persona che però nello stesso tempo è stata davanti a quel tribunale per tantissimi anni, ha stazionato il simbolo del tribunale di Milano, uno dei simboli, Paolo Brosio. Paolo! Ciao a tutti, ciao ragazzi. Come stai Paolo? Mi fa impazzire Paolo. Che Dio ti benedica, sempre. Come che Dio ti anche benedica? Voi, no? Ma non pigliare per il culo la religione, dai. Io anche ci credo quando uno mi dice che Dio... Guarda che in ebraico quando tu dici shalom, sì, oppure sì. In arabo tu dici salam, salam è una bella espressione per dire che la pace sia con te, no? Quindi che è una bella espressione di augurio. Ma non si fida molto degli ebrei, Brosio, secondo me, non si come fida no? Moltissimo. No, no, secondo me non si fida molto, giusto Paolo? Io penso che di pace ce ne sia un po' poca in questi ultimi anni, veramente. Degli ebrei ti fidi, dei signori ebrei? Ma perché non dovrebbe fidare? Ma perché non mi devo fidare? Ma che ne so? Io mi fido di tutti coloro che credono in un Dio, che pregano, sì, che prego, si allontanano dal male. Quello è il problema nostro, che oggi a parte i valori cristiani che sì, ma secondo te quello che è successo al tribunale ma perché la gente oggi sì. Commette delle Beh, serratezze senza perché? Senso e senza logica. Dicelo perché tu. Ci siamo allontanati da Dio. Ah, cioè, perché secondo te questa è una nuova interpretazione su quello che è successo? Ma lasciamo perdere i valori cristiani, allora, per un attimo. Sì, sì. I valori etici e morali non esistono più. Vabbè, questo, cioè, la gente è senza lo guida. Dice sempre mia nonna, però. Tua nonna è molto più saggia di te, allora. D'accordo, beh, i valori etici e morali non esistono più, ma secondo te... Non ci sono più, non c'è più rispetto per nessuno, e poi, oltretutto, la spirale di violenza senza senso. Guarda l'episodio, per esempio, dell'aereo che va giù, l'aereo, e che poi si porta dietro. Certo. Anche il pazzo del tribunale, questo qua che ha ammazzato. Ma anche questo qui è una situazione. Qual è il filo rosso che collega? Se uno si vuole suicidare, che abbia rispetto però delle altre vite umane. Ma il filo rosso qual è? Coinvolgere migliaia di altre persone. Il filo rosso qual è? Il filo rosso è quello che la gente si è allontanata da Dio, che siamo nelle braccia del demonio. Punto. La follia, ma è chiaro. Il filo rosso, cioè, Giardiello, non prega più nessuno. Prega più nessuno, è piena di gente che prega. L'Europa, che è partita con una matrice cristiana, adesso sfocia nel qualunquismo. No, però scusami, questo Giardiello, secondo te, è posseduto dal demonio? Giardiello? Ma io penso che uno che commette delle efferatezze del genere ci sia anche una componente di impurità spirituale, per forza. Non è solo una malattia psichica o psichiatrica o qualche componente demoniaca. Ci sono delle malattie spirituali, cioè, che nessuno tiene più conto oggi. C'è una componente demoniaca, fa ridere se ti dice che uno esiste il demonio, ma la nostra vita è un duello tra il bene e il male, punto. Sì, ho capito, ma secondo te adesso questa è una teoria nuova che va esplorata. Il signor Giardiello. Oh, ma non è una teoria nuova, 2000 anni di storia. Ma tu mi stai dicendo che Giardiello va esplorato, ragazzi, il fatto. Non è che lo dico io. No, tu stai dicendo, è talmente folle questa cosa qua, come quella del signor Lubitz. È un gesto insano che può essere dettato o da un'acceleratezza di una componente psicofisica dell'uomo, oppure da una componente spirituale demoniaca, ovviamente impura, perché se c'è uno spirito puro non è che gli angeli o Dio ti mandano a uccidere la gente. Ma è il demonio. Ma perché esistono gli esorcisti, scusa? Beh, io ho grandi dubbi sugli esorcisti. Sui signori esorcisti, grandi dubbi. Su chi non crede. Grandi dubbi sugli esorcisti. Prego per chi non crede. Io la mia speranza oggi è che la preghiera di chi crede possa portare a chi non crede a pregare, perché alla fine, anche se una persona è buona ma non prega, c'è il problema del... Ma io per esempio che sono? Sei con lui o sei con Dio? Io non prego, mi piace il sesso. Ma però, figlio mio... Che devo fare, secondo te? Che prega per te, sicuramente. Lo so, vabbè... Io non prego, mi dichiaro ateo, mi piace il sesso, sono un traditore seriale, sono un libertino, e facevo quello che facevi tu prima, caro Paolo. Lo so, Giuseppe, però comincia a darti una regolata. Lo so, ho capito, mi darò una regolata. Che tu l'hai mai fatta le orge in vita tua? Senti, Giuseppe, non è questione di orge o meno. Ma l'hai fatto o no prima? Prima? Dove, quello sicuro, io già mi sono allontanato da lì. Ci sono 10 comandamenti, non ce n'è solo uno degli atti impuri. Il problema, Giuseppe, è quello che allontanandosi da Dio, anche se sei una persona per bene, il rischio è di finire male. Ma... Lo so, ma vuoi fare una preghiera per me, Paolo? Io prego per te, perché ti voglio bene, sei un mio amico. Lo so, vogliamo fare. Non serve che preghi, guarda, perché è il caso disperato. Che ne so, prega pure te in ebraico, David, ti prego. Adesso. No, io non prego per te. Perché non prego per me? Perché puoi andare all'inferno, non mi fa niente. Per esempio, se ognuno... Papa Francesco. Io sono liberale, se ognuno fa le proprie scelte. Papa Francesco? Papa Francesco chiede sempre preghiere, pregate per me. Sì. Ma lui sa benissimo che se uno non ha una protezione spirituale, guarda, non è che lo dico io, no. Vai a vedere le lettere, uno non c'ha le lettere di San Paolo agli Efesini. Vabbè, appunto, parlano addirittura di corazza spirituale. Sono sempre le lettere di San Paolo, però uno ci deve credere alle lettere di San Paolo. Insomma, ragazzi, San Paolo non è una Ho capito, ma io credo come... Cioè, una figura che nasce dalla... Io preferisco... Ma io preferisco Rocco Siffredi, amico mio, che devo fare? Figlio mio, allora quello è un problema. Lo so, ma... Invece di vedermi... Donna, ma Rocco Siffredi... No, ma in generale, cioè, se deve leggere qualcosa, leggo Valentina Nappi, mi vedo un film con Rocco Siffredi. Certo, l'ultima cosa che pensa è leggermi la lettera di San Paolo. Giuseppe, comunque finché c'è vita c'è speranza. Tu ci sono messo male, dici te. Sono messo male. Com'è stato l'incontro col Papa? Finalmente c'è stato questo incontro. È una roba meravigliosa. Meravigliosa, Hai pianto? Cioè, per me, hai pianto o no? Dopo quella, diciamo, quella forca caudina delle Iene, cioè, incontrare poi finalmente il vero Papa è stata una hai pianto un'emozione o no? infinita. Hai pianto o no? Come? Hai pianto? Guarda, ti dico la verità. Dimmi. Ho pianto, mi sono commosso prima di entrare. Ah, prima di entrare, prima di entrare. Ho pensato alla mia vita, alle mie cose, detto, ma ti rendi conto dove sono? E con incontro sono il Papa, incontro il Papa. Poi è arrivata mia mamma dopo qualche minuto e ha pianto tanto lei. Beh, mitica mamma, come no, certo. Sai, mia mamma ha compiuto 94 anni, gli faccio tanti auguri. E come sta la signora? Mamma. Come sta? Com'è che si chiamava? Com'è che si chiamava? Bene, mitica? Bene, non me lo ricordo. Mamma Anna. 94, Anna. Ammazza, 94. 7 aprile, ah, cosa spettacolare, spettacolare. È una cosa, guarda, è arrivata con le sue gambe appoggiandosi al deambulatore. Sì. Quando gli ho detto mamma guarda che il Papa ti vuole, sì, no? E lei, sì, aveva dei dolori, forse improvvisamente è partita come un raggio. Senti, però forse possiamo fare, è stato un incontro fantastico, grazie alla fine, grazie alle Iene, se no non avresti mai incontrato il Papa, sì, cioè alla fine devi dire grazie alle Iene per lo scherzo, ascolta, che ti hanno fatto, grazie alle Iene per quello facendo per l'ospedale, perché mi stanno aiutando. Vabbè. Ma in quel momento lì, grazie alle Iene, un bel corno. Cioè. Ma come no? Senza lo scherzo di ieri, col cavolo, no, arrivi dal Papa. No, e come no? Però ieri ho ricordato dopo due anni Frank Matano che era venuto fuori. Appunto, però senza da quello scherzo. San Pietro, e gli ho messo il mattone del cuore. È vero che è vero che fatto promettere di aiutarmi fino a che non sarà finito l'ospedale, vabbè, l'ospedale. Quello, vabbè, d'accordo, però senza le Iene, senza quello scherzo lì. Per me, Giuseppe, quella è stata una sofferenza, perché d'accordo, ripeto, ma ho capito, ne abbiamo già parlato, ma anche quella degli ebrei, quella dei musulmani, non deve avere rispetto. Vabbè, va d'accordo, però al di là di questo, però indirettamente, grazie a quello scherzo lì si è arrivato direttamente. Ho capito, lontana, certamente. Ascolta, non si può arrivare alla domenica senza passare dal venerdì, Appunto, hai capito, cioè, dico, la con metafora, la sofferenza, sì, la passione, sì, ho capito, fino a là ci arrivo. Però senti, ti faccio ascoltare delle cose tremende che succedono al tuo vecchio mentore Emilio Fede, delle cose terribili che succedono, terribili. La gente lo chiama continuamente tutto il giorno, lui incazzato come una biscia, adesso ha perso pure una causa con Mediaset, deve dare 10.000 euro, aveva chiesto 8.000, la gente lo chiama. Forse per lui una preghiera la possiamo spendere per il mitico milione. Aspetta, guarda che succede, senti. No, saranno i soliti figli di puttana, mattina, giorno e sera, guarda. Ma no, di ritorno, non la se devi incazzare in questo ma modo. Ma deve vedere incazzato, a me guarda le merde come te, che puzzano dal culo di una mamma puttana, mi fanno schifo. Hai capito? Vaffanculo, te e chi ti ha messo al mondo, lurido pezzente. Ma di ritorno, me lassi che gli spieghi. Cioè, continuamente, vogliamo dire una parolina per Emilio? Vabbè, ora commentare queste cose a me non mi piace molto, perché lo so, Paolo, certamente non appartiene più al mio linguaggio, no, quindi vabbè, certo, tutto fuori. Però Paolo, però io, mio direttore, comunque ho un ricordo di inserimento in un mondo di lavoro, in una professione difficile, che ha dato tanto per me, però è chiaro che la mia vita oggi è profondamente diversa. Cosa posso fare? Posso pregare per lui, quello sicuramente. Preghiamo un po', diciamo una prego preghiera. Per tutti. Buonanotte. Prega pure per me, che sono messo male. Sono messo male io, vabbè. Che ma devo... No, ma tu vivi bene così, dai, diglielo, scusa. Beh, sì, vivo bene, certo. Allora basta. Vivo bene. Allora, tu vivi bene con te stesso, non sei costretto. Ma sono secondo te sono posseduto, cioè, sono posseduto dal demonio, secondo ma te? Ma guarda, non scherzare su queste cose, perché la possessione parte da un minimo, arriva a un massimo. Ci sono casi intermedi che non sono riconoscibili, che però davanti a un esercista possono anche essere tolte. Ma il demonio si rifiuta di venire. Fai un cammino. Faccio un cammino. Vediamo se faccio un cammino. E ti puoi anche compiacere. Di una preghierina per me. Di una preghierina. Di una giornata con Dio, senza andare con Rocco Cipresco. Di una preghierina per me, piccola, piccola. Lo dico, Beppe, lo dico. Ciao. Però te, dati un po' da fare. Ciao Paolo, ciao, ciao. Ciao. Mauro Treviso, vai, Mauro. Mauro. Sì, buonasera Cruciani, buonasera. Dimmi. Allora, intanto volevo premettere due cose. Io ho acquistato casa da uno zingaro, ho saputo quando sono andato a firmare. Da uno zingaro, sì, poi? Sì. E mi ha detto, mi ricordo bene, prima aspettavamo il notaio e tutto, mi ha detto, noi rubiamo per cultura ed è normale e giusto che lo facciamo. Vabbè, ecco, poi? Qua. Quindi com'è che non rubano? Ok. Poi seconda cosa, nei tribunali il fatto muore qualcuno, anche se uno cade per strada, batte la testa sul marciapiede, non è che puoi mettergli il casco, e obblighi il casco, è successo, è finita lì. Poi volevo dirti, Cruciani, farti un caso reale, concreto, e spiegarti perché uno arriva a un certo punto, arriva a fare certe cose, ok? Il problema qual è? Perché siamo tutti incazzati e c'è la gente che dice hanno fatto bene e tutto? Perché tu non l'hai provato e sono contento per te, spero non lo proverai mai. Cosa? Ma quando è chi deve rappresentare la giustizia che ti incula, hai capito, che ti frega, sì, ma è sempre un giudizio personale, è sempre un giudizio personale quello. Se io ho avuto problemi di lavoro anni fa e tutto, non è che me la sono presa con i fornitori, con i dipendenti, ho sbagliato io a scegliere un fornitore, e allora? Ho sbagliato io a scegliere un dipendente, non me la sono presa con nessuno. Il problema è quando è lo Stato che sono quelli che dovrebbero rappresentare, che ti fregano. Allora ha fatto bene quello a farsi giustizia da solo? Non farmi dire parole. Sì o no? Detto, sì o no? No, allora ti dico un'altra cosa. Ti dico un'altra cosa. Devo chiudere allora, qua. Ci sentiamo lunedì, dai. Ci sentiamo lunedì, è troppo tardi. È troppo tardi. 18:30 lunedì. Ciao. Ma senta, Cruciani, lei non mi è molto simpatico, però seguo la Zanzara dalle 6 del mattino a mezzanotte alla sera. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ringatto che ormai è tutto finito. Radio 24. La passione si sente.